When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before, with hospital-grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at WMATA.com/doingourpart. Del tipo di da. Giuseppe. Del tipo di da. Famoso tipo di da. Cioè. Era un giocatore del Milan. Del Milan, sì. Italian Podcast Network presenta Fatality. Dietrologia videoludica. Il lato B dell'industria del videogioco. Buonasera a tutti, siamo in ritardo, dovevamo uscire lunedì 2 ma in realtà usciamo di giovedì perché sono stati dei piccoli problemi tecnici, problemi insomma che sicuramente al pubblico di solito non frega niente. Con me c'è tra l'altro Marco Gualdi. Yes, Gordo, we are ready to fight. Esatto, tra l'altro a fine puntata ricordatevi, ve lo diciamo adesso perché dopo tanto non, sicuramente ci scordiamo di dirlo, ricordatevi di ascoltare i Geronto Gamers che c'è insomma una puntata abbastanza carina. Allora, i riferimenti www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito, ci trovate Dietrologia Videoludica sia su Google Plus che su Facebook, soprattutto in particolar modo su Facebook. Tra l'altro mettete mi piace che rispetto a Archeologia Videoludica stiamo tipo dei 400-500 like. Mettete a sbafo, anche con i Facebook dei vostri parenti, i vostri amici. Esatto. Mettici un like e mi piace, esatto. Che fa sempre bene. dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra mail e ci trovate tranquillamente anche su, anzi ci trovate soprattutto ci trovate su iTunes, dove potete abbonarvi gratuitamente al nostro podcast audio, che è la cosa più importante. Anche lì 5 stelline, piccola recensioncina che non fa niente male, e ringraziamo ovviamente Carlo Burigana per i fantastici assets che hanno fatto diventare questa trasmissione una fighissima trasmissione audio. Ringraziamo ovviamente anche All Games Italia, che insieme a Italian Podcast Network produce questa trasmissione. Allora, non ci sono rubriche in questo episodio perché, così come per la puntata degli italiani spaghetti cazzi e mazzi, Marco già si è accomodato, io vedo che stanno entrando anche gli altri ospiti che fra poco vedete ecco, c'è che spazio, fra poco però devono stare zitti, devi dire che stanno questa specialone che abbiamo un po' spoilerato a destra manca, che è la puntata su Kojima. Buon ascolto, andiamo direttamente su Osservatorio Dietrologico. Videoludico, dietroludico. Non c'è nuncia, non c'è nuncia. Vabbè, ciao. Osservatorio Dietrologico. Entriamo dunque in questa parte centrale di Dietrologia Videoludica, di questo episodio tanto atteso e tanto spoilerato, pubblicizzato, anche se con dei teaser che ammiccavano, facevano capire ma in realtà non facevano capire, in realtà si capiva tutto. Entriamo nel vivo di questo puntatone speciale su questo autore di videogiochi che tanti amano e tanti non tanto e tanti ignorano, per esempio come me, io lo ignoro abbastanza, se non fosse perché mi sta un po' antipatico lui. E stiamo parlando di Hideo Kojima, che si pronuncia non ti ho presentato, stai zitto. Ma cosa stai dicendo? Ah, giusto, è vero, ti ho presentato. Va bene, per parlare di Hideo Kojima ovviamente non può, non possono anzi mancare un dinamico duo, e stiamo parlando del insomma quasi padrone di casa Luigi Marrone, detto Air Batman in questo caso, essendo dinamico duo. Ciao Luigi, ciao a tutti. Ciao. E ovviamente non può mancare Logan. Ciao Logan. Ciao ciao a tutti. Logan, ricordiamo Robin, appunto. Detto Robin, che non so se gli conviene. No, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Ricordiamo Logan di Cerebro Podcast, insomma, il podcast no, che sembrava che... Cerebro Leso. No, noi siamo Cerebro Leso. Anche lui un po'. È il nome del gruppo nostro di WhatsApp, tra l'altro, Cerebro Leso. Ah, vedi. Bello, vedi, vedi. Cioè, se smetti di sbattere le cose, forse. Cioè, ovviamente, come sapete, Marco Gualdi con me, ma da Roma, anche se non siamo vicini vicini come avremmo potuto, c'è Giuseppe Saso. Buon salve a tutti. E ovviamente anche l'amico oramai acquisito, Marpo. Uomo invisibile. Ecco. Che io chiamerò Marco 2. Perché Marpo me. Cosa mi la seconda. Marco alla seconda. Anche uomo invisibile. Cioè, lui c'è, ma non. A volte allora, non proprio c'è. Una cosa al volissimo. Il tema su Kojima, ragazzi. Dopo il puntatone sugli spaghetti games proposto da Luigi, insomma, abbiamo detto: oh, qui stiamo a fare il salto di qualità, parliamo di cose serie. Allora, che ne pensate? Potrebbe essere un buon argomento? Ci saranno cose da dire? Ci scazzeremo fra di noi? No, penso, no. Luigi. Ma no, capisco che l'autore Hideo Kojima è una personalità considerata un po' contraddittoria, quindi divide più che unire, no? E quindi ci sta tutto, insomma, che un po' di maretta si crei fra di noi, però siamo tutti buoni, ci vogliamo bene, non penso che ci saranno degli impiccati. No, no, vabbè, quello chiaramente. Marco, in realtà Kojima è un po' come la Roma e la Lazio messi insieme. O come, che so, la Samp e il Genova messi insieme. Nel senso che fra di loro si odiano, gli altri le ignorano. Lui si odia fra di loro. Non lo so, vabbè. Giuseppe, invece tu, non so, poi dopo ci tu racconterai. Sei Heideano? Esatto, ci racconterai un po' il tuo rapporto con il personaggio, però insomma era un tema che Dietrologia Videoludica doveva affrontare prima o poi, o è mancato durante questo è lungo... mancato, però credo che quest'anno sia comunque una buona occasione per trattarlo, visto che comunque tra qualche mese arriverà la sua nuova opera, no? Esatto. Quindi, diciamo credo che sia abbastanza attuale, insomma, questo è quello che mi premeva sottolineare. Perfetto, sono d'accordo. Infatti Logan, diciamo che abbiamo aspettato che Dietrologia Videoludica diventasse matura per poterle parlare. Sì, non lo direi troppo forte che tra qualche mese arriva Metal Gear Solid 5, perché visto l'andazzo qui non si sa mai la sorpresa che ci potrà dedicare Kojima. Comunque sì, è un personaggio, è diventato una rockstar nel mondo dei videogiochi, quindi di cose da dire ce ne saranno sicuramente. Ecco, rockstar, sì, hai detto bene. Marpo, invece, diciamo che quando abbiamo presentato fra di noi all'interno del nostro gruppo di lavoro l'idea di parlare di Kojima, tu sei stato uno di quelli che hai detto: beh, proprio se devo venire. Sì, diciamo che non ero tra i suoi supporter principali. Avendo giocato a PT, questo grande demo, come si dice, PT si pronuncerà PT, sì. Come porca troia, esatto. Esatto, sì, Post e Telegrafi. Non sono diventato fan, però attendo con ansia quello che verrà fuori. Però certo, sì. Ma merita comunque, dai, su. È una rockstar, è un autore alla Spielberg, nel mondo dei videogiochi serve. Allora, ovviamente noi abbiamo chiesto a Logan di partecipare a questo episodio, che abbiamo rimandato più volte perché non eravamo sicuri, siamo pronti? No, non siamo pronti, siamo vestiti? No, non siamo vestiti, allora abbiamo detto questo è il giorno giusto. Allora, per iniziare a parlare di Hideo Kojima, ovviamente abbiamo fatto venire Logan, che si sa, insomma, è rinomato non soltanto per quanto ne parlano magari nel loro podcast, ma in generale sembra, insomma, essere un fan abbastanza accanito. Tu magari come personaggio lo conoscevi, cioè nel senso ti sei un po' studiato anche magari la sua biografia a prescindere dai videogiochi, sai qualcosa oppure... Allora, il qualcosa lo so, non credo di essere la persona più adatta a spiegarlo, visto che Luigi lo ha più che abbondantemente studiato. Così, allora, anche allora per... rimpalliamo. Quindi passo la parola, sì. Vabbè, vai Luigi. Vedi il Dynamico 2 che si rimpalla, vedi? Allora, parlare un po' di Kojima non è semplice, perché Kojima è un autore, parte, diciamo, come autore come amante del cinema, da una famiglia che ha sempre spinto affinché ci fosse la cultura del cinema in casa, lì in Giappone. Quindi cosa succede? Succede che è una persona che non parte esattamente come game designer o come diciamo ideatore di videogiochi, ma parte come persona innamorata del cinema da un punto di vista anche proprio filosofico, tant'è che le sue prime produzioni riguardano diciamo delle piccole produzioni di cinema che avevano a che fare, se non sbaglio, con degli ambiti horror, quindi sai, infetti, zombie, queste cose qui un po' apocalittiche, e come regalo tutto quello che chiedeva al tempo quando era adolescente era telecamera, fondamentalmente microfoni, tutto quello che poteva aiutare a mettere su una piccola produzione cinematografica. È interessante notare un aspetto di cui poi magari approfondiremo dopo, il rapporto che c'è fra cinema e videogiochi e soprattutto il rapporto che c'è fra la concezione della vita americana che Kojima ha portato all'interno della sua opera magna, cioè Metal Gear Solid, e quello che era invece il vissuto familiare di Hideo Kojima, perché il padre si era trovato fondamentalmente sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed era uno di quei sopravvissuti che andava a dare una mano a destra e a sinistra sì, quando piovevano, praticamente quando pioveva fuoco dal cielo. Quindi cosa succede? Che tutta la propaganda americana che c'è stata poi quando c'è stata la liberazione, quando c'è stata la fine della guerra, dove c'erano delle truppe che presidiavano, truppe americane, tutte queste zone bombardate cercando di far vedere che erano persone che non solo avevano buttato la bomba atomica ma cercavano di aiutare, avevano in qualche modo cambiato la concezione dell'America da parte del padre di Hideo Kojima, che portava questa sorta di valore americano all'interno della famiglia. Quindi si sperticavano nel proporre film, ogni sera si doveva vedere un film, si andava al cinema il weekend, film di James Bond, film di spionaggio, film dell'America contro i comunisti e via cantando. Quando Kojima ha compreso l'influenza che poi il padre ha avuto, il padre è morto purtroppo giovane, quindi Kojima ha vissuto praticamente con la madre la sua adolescenza, quando ha compreso tutta la propaganda americana che c'era stata al tempo e che aveva in qualche modo modificato l'idea, la concezione degli Stati Uniti nella mente del padre, a quel punto c'è stata un'inversione di marcia. Kojima ha affermato che se fosse stato un po' più giovane, un po' più adulto, il padre probabilmente non si sarebbe fatto gabbare così da questa propaganda, e tutto quello che poi è stato il discorso, andando a stringere in maniera brutale contro gli americani, si è visto in Metal Gear Solid, che è una grande opera contro diciamo il controllo che la società americana in qualche modo avanza nei confronti delle società occidentali, in questo caso anche orientali. E questo posso dire come formazione diciamo iniziale, esistenziale, di suggestioni che in qualche modo hanno corroborato in Kojima l'idea di voler avere un certo progetto ideale di fare comunque arte, cinema, e quindi che poi si è trasformato in videogioco. Che poi qui, se ci pensiamo, ci sono già due spunti, no? Uno, il rapporto Kojima-cinema, e vabbè, quello era abbastanza evidente, no? Il rapporto videogioco-cinema, e oramai anche questo è un discorso trito ritrito, però io faccio una domanda che non c'entra niente, però te la faccio e poi magari se vogliono rispondono anche gli altri. Quanto, e questo l'abbiamo forse già detto da qualche parte, quanto in realtà questi videogiochi spesso e volentieri per gli autori diventano uno sfogo voglio ma non posso, esatto, diciamo utilizzano un medium in realtà avendo aspirato magari ad un altro, cioè nel senso, sì, magari lavorano sul videogioco così come avrebbero voluto lavorare nel cinema magari. Sì, allora considerate questo, l'approccio che c'era negli anni Ottanta da parte di Hideo Kojima, che comunque aveva delle basi di programmazione ed era anche comunque mi sembra un produttore di scenografie, in qualche modo anche di bozzetti, era uno che riusciva a lavorare dal punto di vista dell'ideazione già del game design, quindi del videogioco, era sicuramente non era il tipo di attività che si aspettava di poter fare entrando in Konami, perché era un'attività molto ostracizzata in Giappone, quella di entrare dentro una software house. Si era considerati in malo modo dalla società giapponese, pensando che il lavoro, quello che ti realizzava esistenzialmente, dovesse essere una società che si occupa di videogiochi. Tant'è che... assurdo poi questa cosa di un paese che in realtà dei videogiochi ne ha parliamo, fatto, parliamo dell'inizio degli anni 80 ovviamente, quindi sì, sì, non c'era ancora Super Mario e il boom di Nintendo, parliamo proprio di qualcosa che era ancora ai prodromi di tutto, tant'è che l'unica persona che spinse Kojima a dire devi farlo fu la madre. La madre che disse devi credere, devi fare in quello in cui credi. Quindi se pensi che stando in Konami potrà andare bene la tua carriera, potrà realizzarti, eccetera, fallo. Quindi bisogna immaginare che Kojima, quando è entrato all'interno di quella società, non soltanto lavorando lì dentro, ma proprio come anche riscatto da parte della sua famiglia, di quello che aveva vissuto e altro, aveva questa idea di posso fare qualcosa che non è ancora stato fatto, e quindi si è posto questo obiettivo di avanguardia: facciamo i videogiochi che si avvicinano al cinema, questo aspetto colorizzazione, che poi parlando del primo Metal Gear, in questo caso non parliamo di quelle opere precedenti, ma di Metal Gear in particolare, c'è tutta la contaminazione ovviamente iniziale dei film americani, tant'è che le cover art, tutto ciò che aveva in qualche modo suggestionato l'immaginario Kojima veniva preso e pedissequamente riproposto a livello grafica 8-bit sulla MSX2 con i personaggi, gli attori eccetera, derivati dai film americani. Quindi c'era proprio una sorta di anche voglia di rivendicarsi, voglia di dire sfrutto il medium per spingerlo dove è possibile farlo. Non ci dimentichiamo che Kojima ha sempre fatto questo amando la tecnologia da morire. Per lui il videogioco è tecnologia, se ha nuove cose le vuole sfruttare, se ha più potenza richiede più potenza al suo team. Perché? Perché fare una cosa che si avvicina alla realtà cinematografica richiede un dispendio tecnologico che, certo, con l'avanzare del tempo può essere soddisfatto. Spero di aver risposto per sommi capi a... No, la domanda è questa: è vero che poi questo nello specifico, quindi nei confronti di Kojima, che chiaramente ha una forte impronta autorale, chiaramente questo è una risposta che è estremamente calzante. Poi in realtà bisognerebbe allargare il discorso a tantissimi altri autori che secondo me hanno fatto un po' confusione nella loro vita, diciamo così, però non è forse questo l'episodio. Faccio un giro così molto velocemente, giusto perché c'è stato questo secondo spunto che ho colto io, proprio il rapporto che tu hai raccontato, Luigi, sul rapporto tra americani e giapponesi, cioè che è un rapporto che quasi possiamo definirlo paradossale, no? Cioè, nel senso, in realtà questi si sono fatti la guerra fino a 10 giorni prima di diventare super amiconi, cioè nel senso, sì. Ma non solo super amiconi, con una fortissima contaminazione, cioè in realtà se non quelli, puoi batterli, copiali, allora, e fallo meglio. No, ma la cosa bella è che i giapponesi hanno attaccato in quel modo che gli americani hanno definito vile, ovviamente per Harbor, e loro giustamente in controrisposta hanno fatto una delle più aberranti attacchi della storia dell'umanità, che è stato quello ovviamente di buttare una bomba nucleare su un paio di isole, così tanto per, insomma, no? E però poi non so, me lo siete mai chiesto, facciamo un giro partendo da Marco 2, allora, siete mai Marco chiesto di sto rapporto strano, assurdo tra giapponesi e americani? Sì, e Kojima adesso che mi ci stai facendo pensare, lo evolve bene. Negli ultimi tempi, leggendo un po' di fumetti giapponesi, mi dava molto fastidio il fatto che alcune frasi vengano scritte e poi vengono riportate direttamente in inglese, tipo vabbè, colpi speciali e cose del genere, con dei nomi inglesi che mi hanno sempre dato fastidio. E mi è sembrata un po' una specie di tamarrata, come un considerarsi stranieri. Perché fa più figo. Quello che invece ha portato avanti poi Kojima, conoscendolo così come l'ho conosciuto giocandoci direttamente attraverso le opere, è stata un'evoluzione di questa lettura molto matura. Certo, il Giappone rispetto ai prodotti più popolari probabilmente lui è ancora avanti, stranamente, perché sono passati pure pochi anni. Però l'impressione mia è questa, che è un autore che ha interpretato anche, ha portato avanti anche questo rapporto America-Giappone, che non da tutti ancora è stato portato avanti, evoluto e sviluppato. Giuseppe? Allora, io ho anche visto un po' anche come, innanzitutto perché diciamo, per quanto riguarda, diciamo, una cosa più generale, innanzitutto, proprio come secondo me dalla storia anche di Kojima traspare un po', diciamo, e lo vediamo nella sua ludografia, chiamiamola così, un forte pessimismo. Cioè sembra, se notate, da tutti i giochi che avete visto, che non c'è proprio quasi mai spazio per, diciamo, la speranza. C'è questo istinto, diciamo, di ricerca che prevale sul nichilismo e sull'apatia. Poi ovviamente, per quanto riguarda i veri e propri la vera e propria opera anche di antipropagandista contro l'America, vabbè, questo lo vediamo ovviamente, perché Kojima nei vari capitoli della saga di Metal Gear affronta molte, ma moltissime tematiche che oserei anche dire che non sono in realtà quasi mai state trattate prima del rilascio delle sue opere, perché ricordiamo che lui comunque va a ricostruire in maniera anche abbastanza dettagliata un po', diciamo, l'assetto geopolitico pre e post guerra fredda. Il problema delle risorse energetiche, ricordiamo che comunque anche l'America è una superpotenza per questo, l'equilibrio del nucleare, la sperimentazione genetica, ovviamente ricordiamo tutti attraverso Metal Gear Solid 2 il controllo delle informazioni, no? Quindi insomma sono tutte cose che anche l'America tuttora, diciamo, detiene. Poi ci sono pure tutte quelle teorie, se vi ricordate, anche come si dice, cospirazioniste, per esempio del fatto che l'uomo non è andato sulla Luna, ma è tutta una ripresa, per esempio, girata negli studi di Hollywood, no? E tutte queste cose che va via via, appunto, che è così poi sì esatto, riprendendo Kojima. Quindi devo dire che nonostante appunto lui abbia vissuto sulla propria pelle attraverso quella, insomma, dei suoi cari, comunque ne tira fuori, diciamo, cioè conosce la storia americana, oltre che ovviamente quella del suo paese, molto meglio di tanti americani, diciamo, contemporanei, no? E sto parlando ovviamente di gente colta, non, diciamo, dell'americano medio, dello Yankee, no? Certo. Quindi, diciamo, è una cosa abbastanza, per certi versi anche sconcertante, no? Perché sembra quasi come se attraverso le sue opere facesse, diciamo, un po' di, combattesse una guerra lui stesso, no? Contro l'America, portando avanti ovviamente il suo pensiero, la sua ideologia. Quindi una denuncia. Sì, ma esatto. infatti poi qui veniamo, poi la gente la coglie. Veniamo allo, infatti lo sai che c'è invece, che in realtà mi c'è stato a far pensare adesso, io siccome che non sono mai stato un grande, a parte Silent Hill in generale come gioco, non ho mai giocato molti giochi giapponesi, e in realtà mi sono sempre domandato il perché poi alla fine questi giochi giapponesi andassero a replicare con tanta minuzia di particolari ovviamente un background che è socialmente e culturalmente totalmente diverso da loro, no? E soprattutto un paese che comunque vuoi o non vuoi, anche se poi si diventa alleati e tutto quanto, comunque c'è sempre un qualcosa che rimane, no? Scusa, ti interrompo perché volevo integrare pure un'altra cosa, sempre ritorno al mio pensiero prima, diciamo. Ovviamente Kojima non fa solo propaganda negativa, perché comunque ricordiamo che Kojima, come del resto aveva anche detto diciamo all'inizio nella sua introduzione nel ritratto del personaggio Luigi, comunque lui da amante di cinema ama il cinema per esempio americano e fa nelle sue opere continui riferimenti, cioè si vede che comunque è un cultore del cinema e comunque gli piace il cinema americano. Non è che tipo ostracizza anche questo, tant'è che infatti sappiamo tutti i vari riferimenti che ci sono a partire da 1997, Fuga da New York di Carpenter. Vabbè, ma perché anche molto cinema americano, spazio di Kubrick, esatto. Perché è comunque cinema di denuncia anche, esatto, anti-americano a certi versi, quindi sì. Comunque Logan, dico, sto rapporto anche tu, insomma, vuoi sì. Tra Giappone e Occidente, dici. Comunque se ci si pensa bene, c'è sempre stata questa voglia da parte degli orientali in generale di occidentalizzarsi in un qualche modo. Basta vedere, come ha detto Marco poco prima, che si riferiva ai manga. Ma gli stessi manga e cartoni giapponesi con quegli occhioni grandi, perché? Quello della Disney. No, è perché il dio dei manga, che non mi ricordo più il nome. Osamu comunque Tezuka, Tezuka, esatto, sì, si era ispirato alle opere di, ovviamente, di Disney, con questi gli occhi di Topolino, e aveva cominciato a mettere questi grandi occhioni che, come i giapponesi, come hanno fatto con la tecnologia, poi il procedimento ripetuto un'infinità di volte, hanno poi preso, sviluppato, portato avanti, personalizzato e fatto diventare uno standard per la loro. Esatto, esatto. Eh sì. E quindi c'è questo tentativo di occidentalizzarsi, e quindi, cioè, non mi stupisce il fatto che Kojima, e come tanti altri autori comunque. Sì, ma lui l'ha sviluppato, l'ha sviluppato nel corso degli anni in un modo molto maturo, per fare un termine facile, è un termine molto semplice. Però ecco, non è una cosa di superficie, cioè, ne parla dell'America con le contraddizioni che ci sono nella storia dell'America, cioè sì, la bandiera, come vorrebbe fare qui a Sparo Grossa un Clint Eastwood, diciamo così, che ha fatto infatti il film, due film sulla guerra nippo-americana. Sì, sì, sì. Vabbè, ma come dicevamo prima, è proprio una denuncia da parte di Kojima di quello che è l'Occidente, l'America in particolare, anche se appunto c'è sempre l'amore referenziale verso appunto le pellicole americane, quello è innegabile comunque. E nonostante comunque questo, il fatto anche che molti appunto dei temi che avevamo anche citato testa in realtà comunque siano comunque abbastanza generali, cioè non debbano per forza, cioè sono predominanti nella cultura americana, quello che vuoi, ma comunque sono a livello universale, no? Il problema dell'eredità biologica, emotiva, del rispetto della vita, del futuro della democrazia, non è che tocca per esempio solo appunto l'America, ma un po' tutti gli stati, no? Certo. Sì, vabbè, certo. Poi cerca secondo me anche nella sua a volte anche nel senso, se io guardo Metal Gear penso anche che nel suo insieme c'è la critica, ma c'è quasi anche la satira per certi versi, però tutto chiaramente molto anche mascherato, no? Nel senso che chiaramente poi questo deve vendere il videogioco, non è un pazzo scatenato. America merda, sennò Metal Gear America merda, anzi, in realtà, non venderebbe bene. Anzi, in realtà, voglio dire, se tu lo giochi per quello che è, te lo guardi così anche con un approccio superficiale, in realtà pensi io, il contrario, no? Cioè, pensi il fatto che questo ami il patriottismo statunitense, bandiere, stelle e strisce dappertutto, e anche come posso dire, il comportamento culturale, per esempio i funerali, cioè per esempio se vediamo l'ultimo Metal Gear che è uscito, no? Ci sono alcune sequenze cinematografiche che sono veramente da cinema americano, ma anche quello becero, no? Per certi versi, no? Quindi ecco, quello del Clint Eastwood quando faceva lo Yankee invece di fa il regista con quella grande sensibilità che ha dimostrato poi negli ultimi anni, insomma, quindi in realtà c'è un po' di tutto, e in questo mischione devo dire che probabilmente un po', se sei disattento, un po' ti disorienta. Marco, tu per esempio sei uno di quelli. Io assolutamente non me ne fotta un cazzo della critica contro gli americani, questi sparano e io me nascondo, è così che funziona. Poi dici, vado alle spalle, il gioco è... spezzo collo, finisce, poi gente che resuscita, ma cosa normale, insomma. Beh, allora, non è l'amministrazione. Non so se sei... è la puntata per parlare in generale su Kojima. Lui era quello pro, giusto? Io sono quello assolutamente. No, lui era quello pro. Contro. Quello era no, io sono quello più. Cioè. No, io sono. Io non sono una persona che venera, che c'ha fan, che odia a prescindere, a parte qualcuno. Lui odia tutti. Però, esatto. Tutti sulle palle, però non è che li odio. Kojima non è che mi sta sulle palle, è che sì, ci possiamo vedere tante cose nella sua opera, ma è diciamo, pur avendo molte cose americane, risente comunque della, troppo forse secondo me, della narrativa nipponica. Lo so, sì, ma è quello il problema. Tutto suo. Il rapporto, cioè tutto il rapporto con la loro mitologia c'è sempre. Lo so, ma può... cioè, devo un po' rompere il cazzo. Vabbè, ho capito, allora non lo guardi, cioè, non lo ascolti, non lo leggi. Lo gioco, vedi. Cerco di giocarlo per quello che è, ma se poi devo mettere a seguire tutta quanta la trama per dire tutto. Ho capito, ma adesso giri l'angolo, c'è la cazzina. Cioè non è che no, ma secondo me, scusate se interrompo, non la faccio, io ci ho provato a seguirlo ma non mi sono perso 40 volte. Vabbè, poi... vai Logan, scusate, è questo io il problema, non so, secondo me, cioè se non ti prende, allora innanzitutto è una saga che comunque ormai va avanti da anni e anni, e ha una e soprattutto è il problema, secondo me, quello anche che forse volevi evidenziare tu, Logan, è che è quello che crea anche per certi versi problemi non solo a a Marco, ma anche un po', diciamo, a chi è che si approccia, diciamo, solo nell'ultimo periodo alla saga di Metal Gear, è che è una saga che va costruendo, quando ogni capitolo va costruendo, distruggendo e ricostruendo, esatto, sopra ogni capitolo, avanti, indietro nel tempo, non solo salti temporali, proprio concetti, cioè perché anche ricordiamo che per Kojima non esiste un'unica verità, è perché comunque non è stata scritta a priori, esatto, quindi. E quindi diciamo, chi è che magari appunto si approccia, gioca, insomma, adesso, magari non cominciando in un certo, chiamiamolo, ordine, i suoi vari giochi, insomma, non riesce magari poi via via a cogliere vari riferimenti, rimandi o ad eventi passati, e questo secondo me crea, è tuttora secondo me fonte di confusione. Allora, il problema secondo me è uno che è Metal Gear. Io ti parlo dal mio punto di vista, dal mio punto di vista, che sapete benissimo come la penso nei confronti della saga, che sono un grande fanboy, chiamatemi come volete, è vero, ve lo dico. Metal Gear non è un videogioco per me, è un'esperienza. È un'esperienza nel quale devi esserci entrato dall'inizio. Però aspetta, scusa Logan, visto che Metal Gear è fra due punti e siamo già partiti, è da molto, però torniamo a Luigi. Sì, appunto, dico, torniamo a Luigi. Luigi, ci sei intanto? Sì, ecco. Sì, ok. No, perché qui poi ovviamente è bellissimo, a me piace molto questa cosa che poi si iniziano discussioni. Ah, c'è uno spunto e cominciano a intercalare parentesi su parentesi. Infatti fino a che è fatta una certa, bisogna stare sempre, esatto, 25 minuti. Tra l'altro mi stava per uscire benissimo e non succederà più. No, vabbè, ma tranquillo, poi per intanto io segna che poi dopo lo dico. Sai quante cose intercalo in continuazione. Allora, vai tranquillo, anzi non tagliarlo qua, ti prego. No, non lo taglio, io non taglio niente, quindi vai tranquillo. Comunque Luigi, diciamo, se la biografia extra videoludica, se hai da aggiungere qualcosa, bene, altrimenti passiamo magari al secondo punto, che può essere anche quello, insomma, motivo di ulteriori spunti e poi ulteriori intercalate. Vado soltanto a magari ad aggiungere fra le linee che, non so se vi siete accorti, ma questa è una mia probabilmente, sai, speculazione legata al fatto che analizzo molte volte i rapporti in questo senso. Non so se vi siete accorti che Kojima ultimamente ha puntato tutto sulla saga di Big Boss, sul padre di Solid Snake. E io penso che ci sia una relazione fra la sua situazione familiare, che più e più volte ha rimarcato sulle interviste che ho letto, che non sono quelle che trovi solitamente sui portali dei videogiochi, e la situazione familiare, quindi l'assenza del padre e la sua mancanza, che ha riempito questo vuoto dedicandosi, diciamo, all'arte, al cinema, ad approfondire quello che poi sarebbe dovuto essere. Lui sta insistendo molto su Big Boss nei suoi, quando è, correggimi se sbaglio, 4 giochi a questa parte, perché c'è stato Snake Eater, Portable Ops, Peace Walker e adesso Grand Zero, esatto, e vabbè, Phantom Pain, esatto, sono 5 giochi adesso, 5 giochi. Riesco, cioè, quindi ci sarà un motivo per cui insiste in questo ritorno al passato, quindi l'unica cosa che posso dire come notizia secondo me biografica, ma anche di intento artistico all'infuori di come si sta sviluppando la saga, è l'insistenza della figura Hideo Kojima, padre Big Boss, che sta diventando sempre più determinante. D'altronde è inevitabile quando si è autori di qualsiasi cosa che comunque il tuo vissuto ti influenzi in maniera particolare, soprattutto le mancanze, cioè nel senso quello che sono le parti vuote della tua esistenza le vai a riempire. Non so se avete fatto caso, per chi ha giocato l'ultimo Metal Gear Ground Zeroes, che l'approccio che ha Kojima sia con Paz che con Chico, i due ragazzi, ragazzino e la ragazza adolescente, che sono scappati, diciamo, dalla sua base al tempo per rifugiarsi, per essere poi stati rapiti nel campo Omega, ha un rapporto molto tenero lui con questi ragazzi. Io ci ho visto moltissimo di una proiezione di Kojima su una figura ipotetica di padre che lui in realtà non ha mai avuto, perché ripeto, è scomparso il padre quando lui era molto giovane, mi sembra non c'aveva nemmeno 10 anni, cosa simile. Quindi perciò vi dico che noto come spunto forse autobiografico questa insistenza su Big Boss padre. Luigi, posso dire una cosa? Adesso mi ha fatto in mente una, un'idea che probabilmente sarà accampata in aria, però una tematica è un po' quella del rovesciamento. Adesso non voglio fare spoiler, però il cambio, l'eroe, cioè il cattivo che diventa buono o il buono che diventa cattivo, come succede su Metal Gear Solid. Sì. E so, Guerre Stellari, scusa. Anche, ma credo anche sì. In, in Lord of Shadow. In Castellani. Ma in realtà anche in Heroes succede così. Ma succede sì. Tutto anche in una puntata sola. Esatto. Una cosa e l'altra. Ehi, Siler, tu sei cattivo? Sono cattivo. No, però sono sei buono. Buono, sono buono. Ma ho detto una cazzata, sei cattivo. È vero, sono cattivo. Sono cattivo. Stupendo. Quello è proprio il massimo. Vabbè, scusa, però. Scusa, Marco, vai. No, queste cose non si scherzi, non mi piacciono. Vabbè. Non ci gioco più con voi. E questo discorso l'ho collegato in qualche modo adesso, in questo momento, alla quel rapporto dell'America vista prima come quelli che buttavano le bombe e poi visti come quelli che invece aiutavano la popolazione giapponese a risollevarsi. Sì. Perché in effetti è una tematica che ormai è tema ricorrente. Non voglio entrare troppo perché non mi piace fare spoiler, però su Metal Gear Solid il cattivo di una saga diventa il buono di un'altra, se mi ricordo bene. Sì, se facciamo la puntata senza sì. Spoiler non si fa questo. No, infatti non è possibile. Noi siamo assolutamente, tanto io non so di cosa state parlando, quindi noi siamo assolutamente spoiler free, non nel senso che non ci sono, no, che proprio le diamo gratuitamente. No, dei VL, cioè assolutamente dire, noi li buttiamo, anzi sappiate che Big Boss poi alla fine muore, perde un braccio poi, sappiate questa cosa qui, cioè, no, nel senso, no, al di là di tutto, cioè io penso che è difficile parlare approfonditamente di un qualcosa senza sì. Ovviamente dover entrare chiaramente nello specifico, in una tematica che spesso e volentieri è necessaria per fare un esempio, quindi sì, cioè, cerchiamo di vai. E poi all'interno di questi giochi viene detto apertamente, questo non è un twist finale tipo gli assassini dei però per chi non lo conosce. È sorprendente il fatto che già dal primo Metal Gear dell'87 su MSX2 Hideo Kojima, la figura di Big Boss era una figura che Kojima tendeva a giustificare, gli mette in bocca delle parole dove lui giustifica fondamentalmente la guerra e quello che sta accadendo, quindi ti ritrovi davanti un cattivo che in realtà poi non è cattivo, un cattivo che tende a non si è mai visto nei videogiochi a quel tempo un antagonista che cercava di spiegare le sue ragioni, mentre quindi Kojima, questo che è sorprendente, aveva già un piano probabilmente di sviluppo della saga, che ovviamente non era talmente chiaro da poter essere definito da lì a 20 anni dopo. Sì, certo. Però se ti vai a vedere come si sta sviluppando e soprattutto le interviste che ha rilasciato, a un certo punto lui afferma proprio apertamente che i personaggi che di Big Boss, Solid Snake, sono in lui, hanno preso parte, diciamo, attiva del suo inconscio, cioè come se avessero avuto una loro vita indipendente e lui avesse soltanto seguito il modo come volevano svilupparsi. Ora, non ci vuole un genio per capire, ma questo dai tempi, diciamo, della psicologia, della psicanalisi, che noi tendiamo a realizzare quello che nel nostro inconscio è già presente. Quindi fondamentalmente Kojima aveva un'idea anche inconscia di sviluppare e portare la situazione ad un certo punto, mettiamola così. Però c'è da dire che già nell'87 il Big Boss, fatto di quegli sprite su questo computer a 8 bit, già parlava di giustificazioni sulla guerra, tematiche che poi sono state riprese in maniera forte e preponderante nei capitoli successivi da 25 anni dopo. Quindi è interessante notare come 3-4 parole in croce messe in bocca ad un antagonista che affronti alla fine di questo gioco bidimensionale abbia in sé già i semi di quello che poi in futuro avrebbe delineato una personalità molto più caratterizzata e distinta. Bene, intanto è possibile che non abbiamo capito, cioè in realtà c'è un punto della scaletta che si pone un quesito a un certo punto dicendo ma Hideo Kojima è Metal Gear Solid? Già abbiamo risposto virtualmente perché sì, non riusciamo a uscire da questo meccanismo. Ma torniamo un attimo, facciamo un bel passo indietro sempre con Luigi, così poi facciamo anche il bel gironzolo, perché Hideo Kojima a un certo punto entra in Konami, no? Mi pare di aver capito. Sì, sì. Giusto? E non è che è entrato per fare lo sguattero, no? Insomma, probabilmente è entrato per fare qualcosa, no? Sì, la sua idea di portare fondamentalmente, di usare la tecnologia per potersi esprimere su un ambito che richiamasse il cinema, c'era sempre stata. Però ovviamente all'inizio lui ha lavorato come sempre da galoppino, cioè aveva delle idee, però era portato a sviluppare per esigenze aziendali altre cose che magari risuonavano meno nelle loro corde, nelle sue corde. Quindi ha avuto anche dei progetti bocciati, come è giusto che accada quando uno sta provando a cercare la propria strada. E la direzione di Metal Gear l'ha avuta anni dopo aver affrontato una certa carriera lì in Konami. Però io non sono adesso, non ricordo esattamente tutto l'iter, magari fra Giuseppe, Logan, Marco c'è qualcuno che sa meglio i progetti iniziali. Beh, diciamo che allora facciamo così, cioè vediamo quando è apparso, diciamo, in maniera più evidente il nome di Kojima all'interno di un videogioco, perché vabbè, allora è quello che diciamo abbiamo detto, 1987 Metal Gear, prima esatto. Di allora diciamo non era, cioè, o sea, comunque sarà entrato, credo, se no in quell'anno o l'anno precedente in Konami, quindi non credo che abbia lavorato anche a chissà quali altri progetti minori, o comunque non ovviamente da non come figura, insomma, di rilievo all'interno, magari come programmatore, esatto, come, esatto. Poi ovviamente cosa abbiamo dopo? Abbiamo, e poi dopo Metal Gear, come dice Luigi, anche il primo in sì. effetti già ce l'ha, solo l'introduzione che forse era l'unico elemento che potesse dare una vera cinematografizzazione, diciamo, al gioco, già c'aveva questa impronta, no? Da sigla cinematografica quasi, cioè nel senso, comunque erano schermate con i titoli, no? Il gioco di Hideo Kojima, se non mi sbaglio, però non vorrei dire una stupidaggine, però mi pare di aver visto, insomma, cose che già c'avevano un certo tipo di costrutto da quel punto di vista, insomma, evidentemente il pallino c'era già dagli albori, no? Dico una stupidaggine, Logan, non so no, se... No, ma basta vedere la copertina del gioco, che è praticamente la locandina di un film di Fuga 1997, Fuga da New York, esatto, esatto, lo stesso Snake che si ispira a Kurt Russell, quindi sì. Quello che faceva Jena Pliskin, questo diciamo, ecco, diciamo Snake, che questo in Italia Snake in originale, perfetto, esatto, questo esatto. In Italia magari non tutti lo sanno, perché noi siamo ovviamente abituati a conoscere il protagonista chiamato come Jena, ma in realtà sarebbe Snake, no? Quindi, sì, esatto. Quindi proprio altro che ispirazione, era quasi al limite del plagio. Non è neanche, è oltre la citazione. Sì, sì, sì. E poi comunque sì, è vero, il primo gioco, diciamo, in cui ha avuto un certo spessore appunto è stato Metal Gear. Sì. Poi l'anno dopo ha fatto Snatcher. Aspetta, vai. Un'avventura grafica che tra l'altro insieme a Polysnauts, che è quella dell'88 successiva. No, Polysnauts è del 94. Polysnauts è Snatcher del 94, sì, scusa, sì. Snatcher dell'88, che aveva già degli due avventure grafiche, sì. Sì, no, dico, sono due, sì, sì, sono delle avventure grafiche, però la cosa bella è che hanno già degli elementi che poi saranno inserite all'interno di Metal Gear, come la Foxhound o alcuni personaggi, sì, ad esempio, sì, Meryl. Sono due comunque visual novel a sfondo comunque fantascientifico, che fantascientifico, ricordiamo, sì, è uno degli altri argomenti che ha sempre intrippato pure Kojima, tant'è che infatti, esatto, appunto a lui piaceva pure, come ho detto prima io, 2001 disse nello spazio, Aliens, quindi comunque lui pure con la fantascienza e col cyberpunk, appunto anche coso, Blade Runner di Scott, yes, lui diciamo ci andava a nozze, e poi ovviamente sono confluiti, come avete detto, nella saga di Metal Gear. Ricordiamo anche comunque Kojima, dopo diciamo il boom di Metal Gear, non è solo Metal Gear, ma ha fatto poi anche ben due giochi che erano sempre a tema fantascientifico Mac, che sono i due come si chiama, Zoe, i Zone of the Enders, quindi comunque non è che si è fermato, no, a Metal Gear, o comunque per via della sua maledizione ha dovuto solo lavorare su quel tema, ma comunque ha potuto comunque sperimentare e giocare sempre con altre tematiche a lui care, sempre tutti con una forte impronta cinematografica. Sì, sì. Il primo Zone of the Enders però non aveva la supervisione di Kojima, se non sbaglio, solo il secondo. No, sì. C'era Kojima nel primo. Sì. Ah, ok, non lo sapevo. Anche perché la qualità del primo è un po' claudicante. Vabbè, sì, ma mi ricordo solo la che può sempre fa, cioè, magari anche Ridley Scott ha fatto un sacco di merda, quindi cioè, sì. Anche Michelangelo ha fatto le sue cappelle, come diceva. Questa è bella, questa mi è piaciuta. No, ma poi soprattutto mi piace soffermarmi su cioè quello che volevo dire, il fatto è che comunque Kojima ha saltato anche da un genere all'altro, non è che solo si è, appunto, come ho detto, dedicato solo su temi militaristi, di complotti, cospirazioni, quello che è, ma anche appunto la fantascienza, o anche per esempio, se guardiamo sempre Metal Gear Solid 3, oltre a tutto, tra le mille cose tematiche, Metal Gear Solid 3 è anche fondamentalmente una spy story, quindi è ispirato, diciamo, alle storie di James Bond pure, no? La spy story, esatto, per eccellenza, cioè, a partire, se vi ricordate, dalla sigla introduttiva, che insomma è proprio classica, che fa insomma il verso alle sigle dei film di Bond, dei primi, no? Di quelli anni 70. Ma è anche meglio. Sì. Allora, poi magari entriamo pure, insomma, però qual è? Addirittura vedi che Kojima, tanto perché voglio, cioè, ha pure lavorato anche a cioè proprio sviluppato, diretto e prodotto anche delle cose che non c'entra assolutamente niente con tutto quello che abbiamo detto testé, ma era ma ha pure lavorato su Tokimeki Memorial Drama Series, cioè della serie Tokimeki Memorial, che sono quelle di simulazione con le ragazzette, no? Esatto, di appuntamenti, quindi con il genere rosa, che insomma non ma ce anche lo in quel Giappone gioco, quello ci si pagano il mutuo con qua, sì, sì. Quel gioco per DS che usava l'energia solare. Sì, è Lunar Knight. Bravo, esatto. Però aveva un altro titolo anche, o sbaglio? Sì, l'originale. L'originale sarebbe Boktai, per una serie, ne ha fatto tre titoli. Boktai, che purtroppo Lunar Knight anch'io c'ho DS. No, non era, c'era pure quello per Game Boy Advance, che era Bokura sì, no Tai. Sì, sì, sì, è sempre per Advance, no? Due per Advance e uno per DS. Ok, esatto. Ok, cerchiamo di riassumere un attimo chi più chi meno, insomma, fra di voi, cercando magari di accavallarvi, di fare un elenco di titoli importanti che veramente dimostrano la qualità autorale di Kojima, che non sono Metal Gear, però obiettivamente, cioè nel senso, non facciamo un elenco di titoli così ad gazzum per far vedere quanti giochi ha fatto, cerchiamo di capire quelli che veramente hanno, perché sapete, Metal Gear è una grande saga nella quale lui comunque in qualche maniera ci ha messo tutto quello che c'aveva, gli può aver detto bene, può essere stato bravo, però poi dopo un adore si vede anche nelle altre sfide, no? Nel mettersi a confronto con qualcosa di diverso. Chi si propone per partire intanto? Ma io è bello questo. Non vi accalcate, perché poi qui non sappiamo che c'è confusione. Guarda, come produzione, fra le cose che ho giocato metto Zero of the Enders, Second Runner, che rispetto al primo, per questo prima mi ero un po' stupito del fatto che probabilmente era impegnato con Metal Gear Solid 2 più che il primo Zone of the Enders, che rispetto al primo, diciamo, ha un'impronta molto forte, c'è cioè una storia, diciamo, di vendetta, di recriminazione, rivendicazione, al contempo di forza, rabbia, fantascienza, che marcia tantissimo sulle tematiche, diciamo, di Kojima, lo sfruttamento delle risorse, l'amicizia, la fraternità, un antagonista di quelli, diciamo, forti, con le palle, quindi c'è una caratterizzazione dei, diciamo, personaggi, diciamo che il primo Zoe in effetti era narrativamente non dico inconsistente, era debluccio, corto, si vedeva che era in una fase embrionale, che stava più che altro sviluppando la potenza di PlayStation 2, perché anche a livello tecnologico, a livello di motore, a livello di tutto, sono di Enders 2 è un altro pianeta, non sembra neanche la stessa macchina su cui girano i stessi giochi, è proprio una rifinitura, un aspetto, diciamo, di eccellenza, che c'è tutto il lavoro certosino preteso come al solito da Kojima, che fa la differenza. Io metterei quello fra le cose che ricordo, perché poi oltre la saga di Metal Gear non ho giocato a nulla. Ok, allora Marpo? Io purtroppo ricado nella serie di Metal Gear, perché quella grande lo dobbiamo escludere Metal Gear, no? C'è poco altro comunque, a prescindere. A meno che non siete degli sfegatati e vi siete o dei collezionisti, vi siete quindi recuperati Snatcher o Polysnouts, li avete giocati, buon per voi. Io purtroppo su questi, diciamo, ho poco da dire, perché non li ho, cioè li conosco così, per cultura, per background, però non ho mai avuto la fortuna o la possibilità di giocarli, ecco. Anche perché Polysnouts non è mai arrivato. Sì, appunto, di importazione, quindi dovete pure giocarli, a meno che non fate tutti i giri di tirarvi patch, cose, no? Di traduzione amatoriale e quant'altro. Sì, ma poi non vorrei fare una gaffa, ma mi sa che li abbiamo già citati tutti i giochi di Cosmico. Oltretutto, sì, esatto. Sì, però, cioè, nel senso, io... No, la risposta è no. La risposta è Metal Gear. Ok, quindi è quello, non è che questo però un po'. Allora, vediamo sul prossimo Silent Hill veramente se c'è l'autore coi controcazzi sopra. Poi c'è sta pure il Benicio del Toro. Infatti, quindi dove comincia uno, dove finisce l'altro, chi può dirlo? E anche questo è vero, che poi pure lì veramente stiamo parlando della ultra contaminazione. Lì sono molto curioso di questo prossimo progetto. Secondo me litigheranno, certo, quando verrà la congiura degli americani dentro Silent Hill, Benicio del Toro dice: ma che cazzo vuoi? Cioè, gli sclera, perché ci mette un robottone, così fanno la pace. È un po' particolare. Potrebbe essere, è un po' particolare questa puntata messa così, perché poi in realtà abbiamo già sta cazzo da ribasso. Ok, andiamo alla posta, dai, forza. no, invece secondo me ci sta veramente ancora tanto, però ecco, appunto, magari vogliamo approfondire questo discorso del cinema, perché per esempio Metal Gear in particolare, allora, cioè il secondo Metal Gear, soprattutto quando uscirono i primi trailer, io mi ricordo, ovviamente, avevo appena comprato la PlayStation 2, c'era una rivista che usciva con il DVD allegato e c'erano a volte delle demo e a volte vabbè, Simone, ti stai riferendo al teaser trailer di presentazione di Metal Gear Solid 2, quello che poi che esordì nel 2000 all'E3 di Los Angeles, che ti sto dicendo viene tuttora considerato al pari di un corto d'autore. Sì, no, ma poi allora nei vari filmati che uscirono, sì, ma anche nella demo, roba del genere, c'era la scena della fuga dalla nave con tutto, dalla piattaforma che esplodeva tutto e via, esatto, dalla piattaforma, manco non ricordo bene, e con questa musica che poi alla fine in realtà è diventata una delle poche colonne sonore che veramente hanno fatto la storia dei videogiochi, perché tanti videogiochi hanno avuto bellissime colonne sonore, ma quante colonne sonore sono diventate logo di un videogioco, insomma. Quindi, cioè, in realtà, ecco, è già dal secondo, è vero, come diceva Luigi, che già il primo Metal Gear Solid su PlayStation 1 aveva tutti gli elementi cinematografici, a partire dai titoli di testa, a partire dalle cutscene e tutto quanto, però secondo me è dal secondo in poi che il gioco comincia veramente ad assumere ancora di più lo status quasi di film, fino ad arrivare ovviamente all'ultimo, il quarto, che è stato criticatissimo, e qui vorrei anche le vostre opinioni, magari sviscerate, insomma, il più possibile, perché soprattutto chi ha giocato la demo, cioè nel senso che magari non, ha potuto decidere se giocare o no un gioco che veramente, come giri l'angolo, c'è una cazzina, cioè era più cazzina che gioco alla fine, se vai a vedere. E poi la gente si incazziva. Tu l'hai giocato, Marco? No, non l'ho giocato. Tu non l'hai giocato. Allora, partiamo da Logan. Allora, a me il gioco va benissimo così com'è. Se avessero messo la possibilità di interrompere una cutscene e poter spegnere quando si voleva la console, sarebbe stata la perfezione. Però così non è stato, quindi niente. È vero, è più forse la parte guardata che quella giocata nel quarto. Infatti anch'io non lo reputo il mio preferito, che rimane il 3 tuttora. Snake Eater, assolutamente. E infatti sono contentissimo, come diceva oltretutto Luigi. Tra l'altro mi ha stupito il fatto che nessuno abbia detto, quando Luigi si riferiva alla questione padre e figlio, e quindi il fatto che Kojima si fosse concentrato di più sulla storia di Big Boss mi ha stupito che nessuno avesse detto ma perché nel 4 aveva deciso di far morire Snake per far andare avanti la baracca e non sapeva più che personaggio mettere, e allora è tornato indietro. No, ma in realtà è morto? Anche no, e poi no, è morto. No, vabbè, però poi c'è. Cioè, mi pare ricordo che è anche emblematico nel 4 alla fine quell'abbraccio tra Big Boss e Snake. No, che sta per praticamente alla fine puntarsi per suicidarsi. No, è emblematico. Sì, ma perché fondamentalmente la saga doveva finire lì. Tanto sì. È vero che Kojima ha detto più volte che Snake in quella scena doveva morire. Esatto. E poi invece è andata come è andata, è vero? Marco non l'ha giocato, ma tanto mi sa che di voglia ne hai poca, quindi. No, ma io in realtà mi sono giocato Metal Gear Solid, il 2, che rimpiango di aver giocato, Snake Eater, poi ho giocato quel bellissimo demo. Oddio, di cui parleremo più avanti. Come puoi rimpiangere di aver giocato il 2, dai, che sì, quello dopo Metal Gear fantastico, dai. Quello con Raiden. No, io dicevo il 2. No, io dico quello. Metal Gear Solid 2, Subsistence. Quello con Raiden. Sì, quello con Raiden. Esatto. Sons of Liberty. Però esatto. posso dire perché la cosa che stavo dicendo. Quello era epico quel gioco. Esatto. Atroce, di una atrocezza unica. No. Atrocità. La cosa che stavo dicendo prima, quando poi abbiamo deciso di posticipare il discorso Metal Gear, ora ci siamo dentro, quindi posso dirlo. Metal Gear, ribadisco, per me è un'esperienza che però devi cominciare a goderti dall'inizio. Se non ci entri subito, non ci entrerai mai, secondo me. Senti, io ho giocato Metal Gear Solid. Il primo su PlayStation 1. Rigiocato un'altra volta. Ho preso il 2 e mi sono incazzato. Vabbè, lascia perdere di questo. Lui sta a fare un discorso. Ma io anche faccio un discorso. Che comunque il 2 era abbastanza collegato. A me non mi dà fastidio il fatto che ci siano delle cose che magari non c'erano nel primo e nel secondo, quelli originali vecchi. E che proprio la trama la sputtana in 300-400 modi diversi. Io ti ripeto, Marco, questo voluto dimenticare, però questo non è quel messaggio. No, non esistono certezze. Il mondo, i personaggi, le storie cambiano così tanto nella nostra realtà quanto nel mondo virtuale in cui sta Raiden. Il fatto che noi cerchiamo una sola via da percorrere è fuorviante. Ok? Quel gioco lì l'ho giocato una volta e l'ho posato il joystick da una parte e ho detto questo gioco può anche morire, non ho più giocato, l'ho anche dimenticato e non voglio neanche ricordarlo, se è per questo mi ricordo soltanto questa intelligenza artificiale. Allora, sei tornato come 3 settimane fa con le mestruazioni. Sì, no, assolutamente. Però è un bel tema interessante, perché qui stiamo parlando di senso della cinematografia, scene, storia, però gioco. Però senso della cinematografia, se inquadri in piatto di pasta asciutta per un'ora con tutta la cinematografia del mondo, sempre in piatto di pasta asciutta ti rimane. Insomma, Marco, è per quello che io dicevo, Metal Gear secondo me è un'esperienza e non è un videogioco, perché se tu lo vedi come videogioco c'è relativamente poco di videogioco, sono il primo a dirlo, ma se tu lo vedi come un'esperienza completa nel quale tu da subito ci entri dentro, allora è tutta un'altra cosa. Allora perché sono entrato dentro a Metal Gear Solid e non in Subsistence? Perché non sei pronto ancora. Non sono pronto. Snake Eater mi è piaciuto. Praticamente Subsistence perché dopo sono vibrato. Però se io adesso torno nel 2, riesco. Perché lì oramai ti sei traumatizzato e quindi come ti posso dire, posto negativamente verso il gioco. Vabbè, Metal Gear Solid 3, Marco, ti è piaciuto perché Metal Gear Solid 3 non è nient'altro che Metal Gear Solid, il primo per PlayStation 1 all'ennesima potenza. Esatto. Praticamente è quello. Metal Gear Solid 3 è quello più terra a terra, cioè è ambientato nella nostra storia contemporanea, nel nostro passato, reale, non in un futuro ipotetico. Racconta storie, cioè guerra fredda, periodo. Comunque è un gioco molto più caldo rispetto a Metal Gear Solid 2, che comunque tuttora anch'io dico che è il capitolo più controverso, per carità, perché anch'io quando poi sono arrivato alla fine nell'Arsenal Gear e mi sono beccato Raiden nudo e il colonnello che ciocca, tutte queste cose qua, anch'io ci sono rimasto. Fission Mailed, sì, sì, sì, cioè delle cose oppure Snake che dice, anzi quando si finge, insomma, non dice di essere Snake ma insomma uno pseudonimo, no, che poi dice che combatte a fianco a Raiden, dice io c'ho questa, e indica la sua bandana che prende alla fine del primo Metal Gear con le munizioni infinite, ti ricordi? Ma poi il fatto stesso di non farti giocare nei panni di Snake, ma fatti giocare nei panni di un altro, e Snake però tu lo vedi agisce contemporaneamente a te, è il discorso che diceva Luigi di far prendere vita a un personaggio. Lì Snake sentiamo anche un attimo Luigi che è un po' che sta lì e cogita nel buio. Sì, in merito a che cosa in particolare? No, non lo so, perché sanno. Allora, proviamo a ricollegarla così questa questione. Io vado un po' sul secco. Facciamo la questione binaria 1-0. Noi abbiamo fatto un gran parlare tantissime volte delle tipologie di giochi, ciò che è hardcore gamer, ciò che non è per hardcore gamer, ciò che è gioco narrativo, ciò che magari è gioco più specifico di gameplay. Si sta tirando fuori, insomma, diciamo che Metal Gear nella sua storia, diciamo, è una sorta di ibrido che non è riconducibile, diciamo così, nella categoria del videogioco in sé, come gameplay proprio puro. E tu che ne pensi di questa cosa? Perché allora a questo punto dovremmo considerare Kojima come un non autore di videogiochi. Però, vabbè. Vabbè, sentiamo Luigi, allora, poi sì, dopo sì. Ognuno... Vai. Guarda, secondo me c'è proprio un misunderstanding epistemologico riguardo al cinema e al videogioco. Scusa lui, io però sì, ti voglio bene. Teologia vi impara l'italiano. Epi, come allora, si scrive? Ti adoro, però io, cioè, se mi fai così io poi non capisco. Guarda, epistemologico, epistemologia, epistemologici. Ce l'ho già sul cellulare, mi già indica tutte le cose. Ok, lo segno. Perché poi alla sera, vabbè, dai, fallo, alla fine della serata, diciamo tutte quante le cose che abbiamo imparato. Esatto. Sì, fondamentalmente si tratta della definizione che viene data della natura, in questo caso, ma se vogliamo anche dell'uso comune che se ne fa, delle due parole, cinema e videogioco, accostate come riferimento culturale ogni volta che si parla di Hideo Kojima. Ecco, io ho scritto anche in un articolo, mi sembra questo, uno dei primi articoli che scrissi su PlayStation Magazine, curando la rubrica Deep Inside. E con Hideo Kojima la parte cinematografica, chiamiamola così, entra di diritto a piedi proprio uniti all'interno del discorso gameplay. Non la puoi considerare staccata, perché sono due realtà che si contaminano a vicenda. Non puoi parlare più di cinema soltanto perché lo stai guardando, perché in realtà quello che hai fatto prima come azione di gameplay e quello che farai dopo la cutscene, la scena cinematografica, vanno a influenzarsi a vicenda. Quindi tutto il discorso che molte volte sento fare attorno al è più cinema o più videogioco, è un regista oppure è un creatore di videogiochi, come considerarlo, non puoi parlare, questo si parla di una rimediazione dei linguaggi, in questo caso multimediali, dal videogioco che è interattività al cinema che invece è spettacolarità e visività, quindi non c'è fondamentalmente azione. Combinando queste due cose hai Metal Gear, ma così come tanti altri giochi, ma in misura rilevante Metal Gear. Quindi io faccio sempre più difficoltà, capisco Logan quando dice per me è un'esperienza, perché la devi prendere come un'esperienza totale, abbracciante, ti godi il filmato, vai a giocare poi in modo che hai una risultanza più attiva e partecipata, ma se ti aspetti Devil May Cry, se ti aspetti un'altra sorta di interattività nella quale tu vuoi soltanto smanacciare, picchiare, sparare, sei cascato male. Cioè si casca male con Metal Gear. Non ci guarda, io su questa cosa, Luigi, sono d'accordo al 100% con te. Secondo me la vera difficoltà in questo momento è riuscire a far capire che nell'ambito videogioco ci possono essere diverse tipologie di videogioco, appunto, tra virgolette. Cioè, quello, il fatto che ci possano essere giochi più spiccatamente basati sull'esperienza, quindi sulla narrazione, quindi sulla cinematografia, e giochi magari più estremamente basati sul gameplay. In realtà qui noi siamo ancora al cos'è più hardcore e cos'è meno hardcore. Questo è un po' il discorso che spesso e volentieri si sente, e questo è limitante per un media che invece sta cercando, secondo me, di esplorare anche nuove frontiere, diciamo così. E anche quello che ti aspetti dal videogioco, perché ricordiamoci che certe opere, come ho detto all'inizio, dividono la comunità dei videogiocatori. Quindi se Logan adora Metal Gear, lo aspetta diciamo a braccia aperte, mentre invece Marco dice no, a me sinceramente non mi ha detto niente, è una pretesa di un artista elitario che è diventato una rockstar, ma secondo me fa ridere, cioè quello che fa infine non prende. Che sono, ci può sta anche questa visione. Sono legittime entrambe, perciò dico dipende da quello che tu vuoi dal videogioco, perché magari Kojima ti fa entrare in un rapporto emotivo, narrativo e in qualche modo anche esistenziale con la sua opera, che per altri può risultare indigesto, ma è l'approccio che secondo me bisogna rivedere, perché se uno approccia Metal Gear aspettandosi che cosa? Niente, non avendo seguito il primo capitolo, comprando direttamente il quarto, non avendo giocato Snake Eater, come fai? Cioè, che poi se ci pensi è anche l'opera assurda, sai quante copie di Metal Gear Solid 4 sono state riportate indietro da gente che ovviamente non ci ha capito un tubo, ma che l'ha preso soltanto perché era appena uscita qualche mese prima PlayStation 3. Quindi compri l'opera, il gioco sta anche in bundle all'interno, giochi e dici ma che cavolo vuol dire tutto questo, questi riferimenti, questo altro. E questo è il problema, diciamo, di un'opera come Metal Gear, che ha una risonanza mondiale, planetaria, e al contempo ha un misunderstanding ancora più grande, perché non è un Super Mario facilmente assimilabile e codificabile da tutti. Ma anche un Resident Evil, che siamo arrivati al sesto capitolo, però bene o male ognuno te lo puoi godere. Secondo me questo, sì, alla base di questo misunderstanding che dice Luigi, più che altro il fatto è che Metal Gear Solid in realtà è sì un videogioco, però è quel videogioco in particolare, quella videogioco inteso quella serie, che però è in grado di asservire, no, la nostra fruizione spensierata diciamo della natura comunicativa, ed è in grado di invertire quel rapporto effettivamente di preminenza che c'è tra il gameplay e non tanto la narrativa quanto la comunicazione di un pensiero, di un'ideologia, eccetera, in modo che, cioè, il primo, che è il gameplay, diventi semplicemente il mezzo e la comunicazione sia ovviamente il fine. Che poi non è che il gameplay sia un elemento sottovalutato, esatto, da Kojima, esatto. Anzi, perché se noi andiamo a vederci in scala dal primo Metal Gear, mettiamo anche, non consideriamo i primi, anche se si potrebbe anche fare, ma dal primo della serie Solid fino all'ultimo, sì, ogni gioco aggiunge un tassello, sì, e ogni gioco ci sono degli elementi che poi sono nuovi, vengono ripresi, sono nuovi, nel seguito, e riaffinati anche, bravo, esatto. Questo tra parentesi è sempre dovuto alla sua mania, alla sua impronta registica, perché esattamente come quei registi che ti fanno uscire, che sono Ridley Scott, la versione di Blade Runner, quella normale, quella col finale alternativo, quelli che si vogliono sempre rimigliorare o rimaneggiare la propria, ritoccare la propria opera. Oltretutto, abbiamo visto quanti titoli di Metal Gear Solid a partire dal 2 in poi hanno avuto 3000 edizioni con cut, con anche all'interno diversi extra, making of, eccetera. Questo sempre per la natura, no, contenutistica dell'opera cinematografica rispetto a quella del videogioco. Sì, oltretutto, prego. Oltretutto, ritornando al discorso che effettivamente, se vogliamo scherzarci sopra, più che videogiochi quelli di Kojima, di Hideo Kojima, sono ideogiochi, cioè sono delle simulazioni digitali elettroniche della sua ideologia. Sì, sì, è prodotto autoriale davvero, a differenza, esatto, cioè la differenza con l'artigianato di un Super Mario, facciamo un esempio. È un prodotto che... aspetta, è paradossalmente questo, perché voglio anche a questo punto lanciare pure questa cosa nell'introduzione. Vedete che la primissima fonte di ispirazione di Kojima è stato Miyamoto, giocando a Super Mario. È proprio come perché lui ha sempre preso spunto da Miyamoto, come che lui riusciva sempre a reinventare sempre il concetto del pupino che salta in Super Mario, no? Però Miyamoto non ti chiede quanto ti chiede Kojima, cioè pretende proprio. Per questo può creare questi odi, queste repulsioni, cioè gente che riporta al gioco. È come un film d'arte francese, anche se lui è più vicino alla dimensione americana. Perché Super Mario il gameplay è fine a se stesso. Lì è proprio il gameplay nudo. Super Mario. Cioè, a parte, vabbè, le emozioni e le sensazioni che ti può dare, non ti veicola nessun messaggio recondito, implicito. Metal Gear ti bombarda di informazioni. Ti fa, diciamo, un bel proprio imprinting. Infatti io il problema con Kojima fin dal primo Metal Gear, passando per Lunar Knight e varie cose in cui ho giocato, è stato sempre che a un certo punto non sapevo più come andare avanti, che detto così fa veramente, cioè, ho giocato un pochino di giochi, quindi una cosa del genere non dovrebbe succedere. Però specialmente con il primo Metal Gear si trovi in una situazione in cui non sai cosa devi fare, mentre invece i giochi solitamente non ti trovano, fanno trovare in questa situazione, soprattutto i giochi per console. E questo rimane rimasto per tutte le sue opere. Uno si deve entrare nella mente di Kojima, ti fa entrare, se non ci entri... Ti posso chiedere in quale occasione ti sei bloccato? Allora, io ho giocato, ero molto piccino sul NES, e c'era una situazione in cui bisognava chiamare, poi l'ho saputo dopo, ma all'epoca non c'erano le soluzioni, bisognava chiamare una determinata frequenza sulla radio che aveva Snake, che aveva una radio con delle frequenze che si potevano cambiare. Il gioco era tutto in inglese, non sapendolo, soprattutto non era detta una cosa chiarissima, in questo momento bisognava chiamare questa radio e praticamente dava un soccorso e si liberava da una situazione, era bloccato su un camion, mi sembra, nel retro di un camion furgonato. Non sapendo tutto questo, rimasi fermo lì e il gioco è rimasto fermo lì, con sommo dispiacere. Magari da piccoli anche il limite della lingua, quello sicuramente non aiuta. Sì, però... Sì, comunque ricordiamoci, quanti di noi non sono mai rimasti bloccati anche in Metal Gear Solid, il primo per PlayStation 1? Però è una grande libertà. Nonostante là pure c'era qualche momento che non era ben chiaro in quale punto di Shadow Moses a un certo punto dirigersi. Prima. Beh, ma non lamentiamoci se rimaniamo bloccati in un gioco. No, diciamo, secondo me, diciamo, è sempre. Invece pensa che Ron Gilbert sosteneva che rimanere bloccati in un gioco è un fallimento. Segno di cattivo design. No, dipende perché si resta bloccati. Esatto. Se rimani bloccato in mezzo ai tuoi compagni di party che stanno alle tue spalle e non puoi uscire dalla grotta. Quello si chiama Dragon Age, però. Anche sì. Però lì puoi switchare, vedi? Ce lo switch è il salto che ti tolgono dall'impasse. Allora, io a questo punto, perché c'è un elemento che probabilmente non può essere trascurato se si parla chiaramente di Kojima, anche se poi in realtà abbiamo parlato, insomma, del suo rapporto con l'America, del suo rapporto con il cinema, soprattutto col cinema americano. Però quello che non abbiamo citato è invece il rapporto con la parte narrativa tipicamente giapponese, no? Tutto questo senso, questa necessità di costruire un'epopea fatta di milioni di personaggi che si intrecciano fra di loro, e inserire all'interno ovviamente tutta una tipica mitologia proprio giapponese, insomma, che è fatta di tematiche specifiche che ritroviamo in centinaia di tantissime altre opere, e la necessità di costruire le parti estremamente verbose, tutto quello che, insomma, fa parte, i fantastici spiegoni e roba del genere. Ecco, questo è un elemento che chiaramente per magari un un occidentale che non è particolarmente appassionato del genere può essere, diciamo, un ostacolo. Quanto per voi lo è stato e cosa veramente secondo voi è eccessivamente appesantito dall'idea di cosa diciamo Kojima appesantisce troppo secondo la vostra idea? Ripartiamo da Luigi. Allora, la fascinazione per l'universo di Metal Gear è nata sicuramente per il fatto che tentava di proporre qualcosa di più serio, meno, diciamo, scimmiottato come forse struttura all'interno del videogioco come lo si conosceva prima del primo Metal Gear Solid. Parlo della versione Solid su PS1. E la fascinazione quindi mi ha portato a entrare all'interno dei personaggi, entrare all'interno della storia che narrava e a poi a vedere come veniva ampliata e in qualche modo come fosse avanguardistico tutto questo, perché Kojima ha sempre toccato dei temi che sono sembrati sempre al passo rispetto a quelle che erano tutte, sono state le influenze all'interno dell'immaginario artistico del periodo in cui esce un'opera. Mi ricordo praticamente quando uscì Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, era uscita la PlayStation 2 da poco, era il cinema che davvero incontrava il videogioco da un punto di vista strutturale, c'era la potenza, c'era il discorso sui geni, la genetica, la trasmissione di informazioni, la storia. Non potevi non risultarne in qualche modo affascinato se eri un po' all'interno di questo tipo di tematiche. Quello che ho trovato stonante, per rispondere alla seconda parte, della tua domanda che hai fatto, Simone, è secondo me, ovviamente puramente soggettiva la cosa, alcune forzature che portano a non considerare molto seriosa la piega che aveva preso Metal Gear in quel tipo di situazione, in quel capitolo in particolare. Non lo so, faccio un esempio su tutti: quando praticamente Kojima diventa troppo lezioso su dover scherzare, prendersi il gioco di sé, quando in qualche modo rigioca e rigira le parti, tipo, a rischio di fare spoiler, il famoso braccio di Ocelot che in realtà è tutta un indottrinamento, quando pensavamo che invece un braccio potesse davvero influenzare la personalità di qualcuno. Cioè, quando iniziano a entrare troppe realtà poco plausibili, dove prima avevi dato invece un contesto di plausibilità, di narrazione, di coerenza, io non riesco proprio più a digerire facilmente l'esasperazione. Quindi so che l'esasperazione è un elemento che contraddistingue i giapponesi da tutti i punti di vista, hanno questo senso del drammatico ampio, questa uccisione del romanticismo come lo consideriamo noi, quindi come infinito, per una sorta di struggente dolore esistenziale. E quando però viene portato in ambito troppo esagerato non riesco più a seguirlo, ma presumo perché mi manchi una sorta di DNA, di gene che chi invece è giapponese riesce più facilmente a identificare come cultura propria, sì, e personale. Diventa quasi melodramma con certe esagerazioni. Un po' canta Napoli, ecco, diciamo. Sì. Sì, ci sono quegli aspetti che... No, infatti poi... è una cosa che disturba pure a me, ma questa è poi tutta quanta nella narrativa giapponese, quindi cartoni animati, manga, ce n'è tanta. Dopo 37 anni comincia un po' a pesarmi, effettivamente. Quindi sì, questa la trovo una cosa molto pesante. Se no, oltre appunto l'intrecciare troppo le storie e farle diventare più complicate di quelle che potrebbero essere, perché poi uno si perde. Guarda, io capisco, Marco, la tua confusione, perché parli di intrecciare le storie. Alla fine un videogioco che presume anche un'enciclopedia, perché il Kojima ha creato un'enciclopedia di Metal Gear, ovviamente sta proprio a significare che la complessità, i rimandi, in realtà se l'è fatta per lui stesso quella, sì, poi, per capire che cosa sta succedendo, che ho fatto qua, oddio. E non però, sempre l'ha seguita comunque, No, poi la stavolta è quello il problema, probabilmente non tanto che sono tanti personaggi o che ci sono, però che la coerenza a volte è un po' così. Ma quello, sì, qualunque opera seriale porta questo, poi. Beh, no, non ci sbilanciamo. Non, sì. Non qualunque, capita, è capitato, però. Ma anche se per avere, a volte anche per avere proprio un senso, è come nelle telenovelas, è chiaro che se, sole. Esatto, è chiaro che se tu mi parli di un'opera che ha 50 puntate, 100 puntate, no, forse 300 puntate, è chiaro che a un certo punto tu a un punto esatto della serie dici: senti, sai, famo che quello non era il padre, ma era il fratello. E dai, è una smucinata, diciamo così, ma non perché comunque le opere in assoluto, le opere seriali non hanno coerenza. Diciamo che effettivamente è difficile, no? Perché poi narrativamente, se sei uno scrittore professionista, ti sei fatto il tuo schema, voglio dire, su quello che è ovviamente il background, l'universo, gli intrecci e tutto quanto. Secondo me poi il problema è che al giorno d'oggi è venuta un po' meno, l'abbiamo visto proprio al cinema sta cosa, e in più occasioni è venuta un po' meno una certa professionalità, insomma, quindi vai. Secondo me è anche figlia del fatto che proprio, cioè, Kojima, a Kojima piace giocare con i fan. Non so se voi siete, io sono anche iscritto anche trollarli a volte. Io sono iscritto al suo account Twitter e sinceramente l'odio verso Kojima che alcuni provano, comincio a provarlo anch'io dopo che sono 2 anni che mi dici arriva Phantom Pain e lui ogni giorno ti mette la foto che è davanti al computer che sta aggiustando i bug. Quello dopo, sì, insomma, si fa tutta la sua campagna marketing, che comunque sta cominciando anche a mettere un po' di nervosismo adesso, dopo un po', perché un gioco è bello quando dura poco. E però, senza considerare, qui vabbè, forse sarà il punto finale del fatto che mi fai pagare la demo 40 euro. Insomma, poi ne parleremo dopo, presumo. Ma lì puoi essere fanboy quanto te pare. No, no, ma io infatti, guarda, poi ci arriveremo, vi do ragione. Poi ho le mie motivazioni comunque, però fondamentalmente sicuramente la penserò come voi. Comunque, quello che intendevo, a Kojima appunto piace giocare con i fan e piace stupire i fan. Perché? Perché è conscio del fatto che lui non sta vendendo Metal Gear Solid al grande pubblico, ma sta vendendo Metal Gear Solid ai fan di Metal Gear, a chi li ha seguiti, a chi li ha giocati tutti dall'inizio alla fine. Di conseguenza agisce in un certo modo. Poi questa è la mia opinione, Okay. È una cosa molto giapponese, però questa, eh beh, è giapponese, lui. Nintendara quasi, oserei dire. Quasi. Vabbè. Sì. E Giuseppe? Allora, cos'è che a me piace e cos'è che invece trovo brutto nelle opere di Kojima? Allora, il fatto che mi piace, in realtà sono una serie di 3 cose che Kojima comunque fa, appunto, comunica con noi attraverso le sue opere. Innanzitutto Kojima insegna, perché appunto ogni gioco, ha detto, è intriso comunque di intenti più o meno espliciti di tipo didattico o didascalico, ok? Che ovviamente questi elementi si innestano perfettamente nella trama di ciascuno dei suoi giochi, no? Beh, didattico e didascalico non so esattamente la stessa cosa, però sì. Didattico perché insegna, didascalico perché comunque ci sono degli elementi comunque didascalici presenti nelle sue opere. Poi il fatto che mi piace, appunto, oltre appunto alla parte parimenti riflessiva, è quella che comunque lui commuove, perché comunque lui parla all'animo dei videogiocatori stessi, ricorrendo, se ti ricordi, a immagini che ora sono magari a volte anche patetiche, a volte sono anche drammatiche, ci sono momenti di puri di sentimentalismo, anche se ti ricordi con scene più o meno romantiche, momenti di tensione, le momenti di ironia, no? Che a volte magari sono anche esagerati, o possono essere addirittura, ti ricordi, pure scatologici, no? Che c'è sempre in Metal Gear Solid il soldato, quello che deve andare in bagno, che c'ha l'attacco di diarrea, se vi ricordate. Poi ricordo quando la scenetta in cui deve togliersi, esatto, una, in Snake Eater deve togliersi la cimice, sì, e c'è lei che lo aiuta, sembra che sa che sta, si vedono le ombre proiettare, chissà che stanno a fare, invece gli sta a togliere la cimice che avevano messo sotto. E poi, sì, diciamo, anche un po' decontrastizzate, sì, cioè, diciamo, e poi la terza cosa è che comunque lui diletta anche, diciamo, il fruitore del videogioco, perché comunque è sempre un concept nei suoi giochi che è abbastanza intrigante, nonostante comunque la saga di Metal Gear, diciamo, nonostante costruisca, butta, ricostruisca, rimanga comunque di fatto immutata, no? nel suo nucleo, nel suo nocciolo, nel corso degli anni. La cosa invece che appunto non mi piace è che a volte esagera anche un po' troppo, esagera con rompendo la quarta parete, rivolgendosi al videogiocatore stesso e prendendolo a volte anche in giro, facendogli delle trollate, esagera anche tra virgolette cinematograficamente in alcune sue opere con a volte appunto cutscene anche che potrebbero durare anche un po' di meno per evidenziarti lo stesso concetto o non per questo risultare meno drammatiche, no? Però credo che comunque questo sia, faccia parte dell'essere Hideo Kojima. Un piccolo punto, Marco, che te hai detto, hai citato la scena di Eva che estrae la cimice, la spia. Vedi che anche lì si ispira al cinema Kojima, sì, perché è uguale alla scena di Austin Power dove gli tirano fuori l'ombrello dal sedere e, sì, si vede dalle ombre, no? È uguale. Prego, scusate, volevo dire. Cancellatelo pure. Che bella citazione. Che bella. Marpo, tu volevi dire qualcosa? E poi Marco. Io brevemente un pregio, anzi un difetto che secondo me mi è venuto in mente giocandoci, e cioè che se lui si ispira molto, leggermente molto al cinema, dovrebbe limitare i tempi, cozza un po' i tempi di un videogioco e i tempi del cinema, forse risulta essere troppo pesante, perché tutti i giochi suoi che ho giocato a un certo punto li ho sentiti proprio pesare in qualche modo, forse è un'esperienza che andrebbe condensata, infatti speravo in qualche modo in questi, diciamo, cortometraggi, ma in questi episodi brevi desse concisione all'opera. Adesso invece penso si tornerà alla dimensione solita dei giochi monster a cui ci ha abituato, però comunque il pregio è che è talmente sempre con qualche cosa di nuovo che fa venire anche questa volta curiosità di vedere, malgrado delle piccole riserve, cosa creerà. Così. Bah. No. Marco? Che cosa vi piace? No, diciamo che il discorso era un po' se, cioè, no, quanto della parte mitologico giapponese secondo te appesantisce e quanto invece ti piace ovviamente dell'opera di Kojima nello specifico. Come ho detto prima, sto diventando piuttosto intollerante, quindi perché la parte sei diventa vecchio. Diventa vecchio e troppa giapponesità uccide secondo me. Quindi diciamo, per troppi decenni ho visto cartoni animati, letto fumetti che avevano proprio queste scene, queste, diciamo, modi di raccontare determinate situazioni anche estremamente comiche, estremamente patetiche, riportate in un videogioco che dovrebbe essere, come è stato detto pure prima, dovrebbe avere una linea piuttosto tra virgolette seria. Poi si ritrovano, mi sembra Luigi lo stava dicendo, si ritrovano situazioni che spezzano un po' l'atmosfera. Secondo me c'è ancora troppa roba giapponese troppo retaggio giapponese in quelli che sono i suoi racconti. E poi quello che non mi piace molto è proprio l'intrecciare troppo e anche in diversi capitoli, cioè mischiare troppe cose, come io adesso mi mancano molti punti, però mi avete detto che spesso questi intrecci vanno anche uno contro l'altro, quindi probabilmente si è anche diciamo rimangiato alcune situazioni, non lo so perché non sicuramente me ne sono perse, però sicuramente li riconosco che tecnicamente come sviluppatore, diciamo, di giochi, quindi come li costruisce, li fa sicuramente bene, sicuramente c'è sempre qualcosa di buono da trovarci, però c'è un lato negativo che una macchia scura che non me lo fa apprezzare pieno. Poi magari non ci sono entrato dentro, però dico, beh, che ci sei entrato dentro meglio così insomma, anche perché probabilmente sarei più grosso io di lui, esploderebbe, per cui sarebbe anche una brutta cosa da vedere. Non so, sì, mi pare che è piccoletto, Se è giapponese, quanto può essere grosso? Come un comodino alla televisione appoggiata sopra, dai, cioè. Allora Luigi, sì, vediamo a questo punto, diciamo non è il nostro compito, insomma, cioè non vogliamo parlare, entrare nello specifico e parlare dell'individuo in quanto tale, perché magari non è manco, insomma, però è chiaramente, non possiamo esimerci dal fatto di considerare comunque Hideo Kojima un personaggio oramai pubblico e quindi di conseguenza anche soggetto, possiamo dire così, a critiche o ad analisi anche dal punto di vista individuale, perché poi chiaramente Hideo Kojima, come abbiamo detto, è diventato un po' la star dei videogiochi e alcune tendenze dal punto di vista comportamentale, alcuni eccessi nel look, la questione delle fotografie del cibo, la trollata verso il pubblico, una demo a 40 euro. Quante cose si perdonano a un personaggio quando diventa un fenomeno, quando diventa una star, e che in realtà non perdoneresti mai a una persona normale, anche una persona meno star, anche con le potenziali capacità e qualità di Hideo Kojima? Allora, c'è da fare un piccolo ridimensionamento, secondo me, su quella che è la figura di Kojima in generale, perché lui non è una persona che progetta il videogioco, ha tutte le idee, non dorme la notte per creare sempre l'opera, l'eccellenza a livello dell'arte. È un team di lavoro all'interno di Konami e nella Kojima Production, di gente che si rimpalla le idee, che molte volte presenta già la soluzione vincente a tante cose e lui non fa altro che approvarle. Quindi c'è già il ridimensionamento della figura autoriale da questo punto di vista. La demo a 40 euro, io so che era un periodo che per quanto se ne dica non molto roseo per Konami al tempo, quindi le pressioni che hanno fatto la Kojima Production per far uscire questa sorta di demo, l'avete chiamata voi, che poi è una prequel, un antefatto a quello che sarà Metal Gear Solid 5, era perché avevano bisogno di liquidità, fondamentalmente, di far rientrare alcuni investimenti. Quando parliamo di cose distribuite a livello planetario, parliamo sempre di realtà che succhiano tantissimo dal punto di vista finanziario, i partner, le società azionarie che li controllano, che stanno attorno. E Ground Zero serviva per una iniezione, diciamo, di liquidità e comunque di far ritornare degli investimenti come erano stati fatti. C'era il rischio che Metal Gear Solid 5 non uscisse senza Ground Zeroes prima a quel prezzo lì. Kojima penso che non è che abbia l'autorevolezza di poter dire no, non lo voglio fare, oppure sì, facciamolo uscire a tanto perché ci voglio guadagnare sopra. Bisogna sfatarlo totalmente questo mito. Questo è una realtà aziendale, quella di Konami. Non è manco l'ultimo dei coglioni, però, cioè, nel senso, comunque non è uno che dal punto di vista anche cioè lui c'ha questo rapporto molto stretto con Konami, ok, ma in realtà non è che è uno che domani dice vabbè, allora mi avete fatto rode, me ne vado alla Square Enix, cioè nel senso, e nessuno, nessuno gli dà retta, cioè nel senso, lui è il primo che ha affermato che i videogiochi non sono arte ma sono dei servizi, perché evidentemente quello che ha in mente di fare, o tutto quello che è stata la scena Metal Gear sino ad oggi, comunque ha avuto il controllo di Konami, anche se fosse soltanto per la questione, diciamo, delle timeline, delle deadline, delle uscite e quant'altro. Quindi è sempre, comunque bisogna considerare sempre Kojima come una persona che sta all'interno di un'azienda che in qualche modo gli dà tantissimo credito, ma che pretende poi altro. Quindi io sai, anche la figura dell'artista, della rockstar, come è stata nominata, queste sono persone che lavorano la propria carriera, cioè sono persone che se lo costruiscono il nome, perché ovviamente hanno un team alle spalle che lavora per loro, gli uffici di stampa con le palle gigantesche, hanno il marketing quando si devono muovere, e tutto quello che fanno è monitorato e controllato anche da un punto di vista formale prima di poter essere dato in pasto ai fan o alla gente che segue queste cose. Quindi io ridimensionerei la figura di Kojima come rockstar, lo vedrei come una persona che sa vedere bene, appassionata, sa scrivere, sa lavorare sia individualmente che di gruppo a questo punto, e che in qualche modo riesce a centrare gli obiettivi di produzione e di qualità che in qualche modo il suo gruppo si impone. Quindi io farei prima questo, anzi direi fondamentalmente questo come ridimensionamento dell'aura che ricopre Hideo Kojima. Poi per il resto ridimensionamento che perché sei buono fai tu, però lui spesso e volentieri non lo fa, cioè nel senso comunque si espone a eccessi, e questo lo diceva anche giustamente Logan prima anche con i Twitter, no, nel senso comunque sì, ma sottopone caso. La gente a stress, insomma, che sì, ma fondamentalmente non è che è andato ad annunciare o ha dato o ha fatto qualcosa di razzista o di sessista o di altro, semplicemente sta giocando sulla data di uscita. Non è che dico che sia una persona spregevole, diciamo lui si sottopone a determinati eccessi e molte cose gli vengono perdonate. Questo sì, ma sarà anche una concezione, secondo me, molto legata al suo lavoro. Cioè, deve tenere comunque alta, ha una pressione addosso, deve tenere alta l'attenzione, far parlare comunque di sé sempre e comunque. Pensate al fatto che è andato alla Gamescom a presentare nel suo videogioco, del Metal Gear Solid 5 parlo, Big Boss, che riesce a mettersi le scatole in testa o a ficcarsi le nuove iterazioni dentro le scatole. Cioè, volare dal Giappone per andare lì in Germania a presentare una presentazione di 4 minuti su questa feature di Metal Gear Solid, quando non c'è la data, non c'è niente. Ma secondo voi Kojima si divertiva a fare questo, andare lì e dire questo è quello che può fare adesso Big Boss, guardate, godetene tutti perché ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi? Ma no, è marketing. Poi sono realtà, sì, sono ti paga, vai lì adesso e parla di Metal Gear, fai vedere questa cosa qui, in modo che, più, come si dice, più se ne parla meglio è, l'importante è parlarne. Quindi io immagino pure che Kojima si sarà fatto due coglioni tanto comunque a dover sopportare la risonanza che ha attorno nel mondo, e al contempo ci sia anche un lato compiaciuto del fatto di dire evidentemente la gente adora, ama quello che scrivo, quello che produco, quello che produce Kojima Production, come altra gente invece la devo mettere di conto, gira le spalle e in qualche modo ignora o è apertamente contro. Però secondo il mio punto di vista Kojima deve ancora, secondo me sta ancora lavorando per esprimere qualcosa di preciso, che potrebbe essere un progetto che differisce da Metal Gear Solid e che in qualche modo va a sfruttare alcuni elementi che al momento non possiamo prevedere, però lo vedo orientato verso fare qualcosa di radicalmente diverso. Non so dirvi cosa, però è fuori dall'aura che ricopre Metal Gear, perché purtroppo quando si parla di grandi personalità si associa sempre il videogioco grande alla grande personalità e non tutto quello che ha fatto nella vita. Shigeru Miyamoto è il papà di Super Mario, allora esce un Super Mario anche se lui lo ha supervisionato o non ci ha messo bocca, e allora si riferisce tutto quanto a Shigeru Miyamoto, e non si pensa che Shigeru Miyamoto magari è stato uno degli ideatori di tanti altri videogiochi, idee o meccaniche di gameplay. Così come Kojima si pensa a Metal Gear Solid, ma in realtà va a finire che sta lavorando ad altri progetti o ne sono stati scartati talmente tanti all'interno dell'azienda Kojima che noi non abbiamo nemmeno idea. Ci sarà un motivo, però sì, no, così. Il motivo però io non lo vedo dal punto di vista Non questo gioco sono, non è Metal Gear, lo scartiamo. Sì, sì, ci sarà un motivo, perché ovviamente non sono sostenibili molte volte dei progetti, anche perché quando si muove un Kojima, secondo me, non ti chiede di fare Angry Birds, ti chiede magari di fare qualcosa che in qualche modo potrebbe far parlare sì di sé, ma far investire tanti capitali per una preproduzione, per una sorta di messa in moto soltanto della macchina. Che sì, però se mi dici che comunque stanno, cioè, non è che sta in rose e acque, tanto che ha dovuto far uscire. Lì però parlava di Konami in generale, non parlava di Kojima. Sì. Ho capito, ma sì. No, ma io un po' come la Capcom, l'industria del videogioco giapponese ha passato. Sì. Oh, attenzione. Scusate, ci sentite? Sì. Stava per succedere un dramma familiare. Cioè, nel senso, comunque l'industria del videogioco in giapponese in generale, vedi la Capcom anche, cioè, mi pare c'è stato un momento in cui ha subito dei passaggi generazionali, anche dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista economico, quindi probabilmente, insomma, le difficoltà oggettivamente ci stanno, insomma. Non credo che sia un problema di Kojima o di Konami in sé, penso sia un problema anche generale in Giappone, non so poi... Sì, sì, ma l'errore, Simone, che si fa è prendere una persona e credere che sta a capo di un intero progetto godendone tutti i profitti e muovendo tutti i fili. Beh, perché noi siamo abituati a vedere la concezione del produttore esecutivo all'americana, che è di fatto il direttore artistico, è colui che veramente muove, cioè il J.J. Abrams, no? Che in alcune produzioni poi chiaramente non è manco più così, perché poi dopo, quando diventi anche personaggio, in realtà sovrastrutturi anche il tuo meccanismo, e quindi c'è gente che sa come tu pensi, sa quello che tu vuoi e lo lavora per te poi in realtà, no? Quindi Kojima è un frontman, diciamo. Beh, diciamo che Kojima è un uomo, come diceva Luigi prima, che in realtà anche soltanto dal punto di vista della pre-produzione, quindi della struttura iniziale del concept del progetto, già richiede delle risorse, quindi vabbè, questo in ogni progetto, ma probabilmente lui ne richiede di più. Faccio un inciso che non c'entra assolutamente niente: stavo vedendo il gameplay di Snatch, che non è ispirato a Blade Runner. È Blade Runner, cioè, sì, nel senso, sì. Ok, quindi diciamo che ha macinato e ha fatto il giapponese per molti anni, anche Kojima. Anche la storia è quella, perché è il cacciatore di replicanti. Sì, a parte il fatto che i replicanti sono Terminator. No, però diciamo che ha fatto il giapponese per molti anni Hideo Kojima, fino e poi all'interno di questo gioco, nei titoli di testa, c'è un personaggio che si chiama Metal Gear. Esatto. Quindi, insomma, questo è tanto così. Ma lui si cita, sia delle note così, delle note caratteristiche. Comunque, Marpo, allora, è indiscutibilmente corretto tutto quello che dice Luigi, sebbene filtrato comunque da una sua opinione, che poi magari è un'opinione che io condivido, diciamo. Però vediamo, insomma, se ci abbiamo magari idee diverse, se qualcuno gli bestemmia contro sto cazzo di Kojima, perché insomma se noi vogliamo tutti bene e via, così è finita, così la puntata. No, vabbè, quanto fosse. Dico solo questa cosa, tanto è breve, brevissima, per quanto sia una cosa costruita. Non è che devi essere breve per forza, No, perché non aggiunge nulla, perché sono d'accordo con Luigi su tutto, però anche sia una cosa, un'immagine costruita, una cosa, una richiesta industriale di dare una determinata immagine, è comunque lui che alla fine mette la faccia, perciò che sia una rockstar è sempre vero, cioè, c'è anche un team e tutto, ma è lui che incarna questa immagine, quindi diciamo che è la realtà, è quella l'immagine che viene, poi quella che trasmette è. Per il resto sono d'accordo, non è insensato, bisognerebbe giudicarlo sui giochi e basta. Ok, invece ovviamente Logan lo lasciamo alla fine, perché per ovvie ragioni. Giuseppe. No, io in realtà sposo pienamente la visione che c'ha, diciamo che più che altro sminuisce un po' la figura, l'aura divina che c'ha Kojima, no? Perché comunque alla fine lui deve, nonostante ormai ci abbia alle sue spalle uno studio che anche il suo nome riporta proprio il suo nome nello studio. Comunque Kojima non è Konami, non è come se diciamo tipo Steve Jobs era Apple, no, non è la stessa cosa. Quindi comunque anche lui deve comunque sottostare al volere di investitori e di regole di mercato. Quindi comunque nonostante ci metta lui la faccia, il genio, quello che vuoi, quindi comunque ha delle grosse responsabilità. Poi che ogni tanto si voglia comunque prendere qualche libertà eccetera, trollando, dicendo e facendo comunque la persona figa, che da un lato è comunque, per carità, secondo me è meritata, visto comunque quello che ci ha finora propinato, nel bene e nel male, ci sta. Marco, io sono neutro nei suoi confronti, perché comunque, come ho già detto prima, cioè, ha sicuramente tanti meriti nell'ambito videoludico, però è troppo contaminata ancora dalla giapponesità, che vabbè, giapponese però ci sono le zizze, attenzione, perché sono distratto da delle zizze disegnate, però fate questo. Strano, perché per essere un gioco di Kojima non ci sono mai queste cose. Mi domando però se, cioè, lui come ovviamente autore di videogiochi è comunque una, diciamo, un'autorità, scusatemi il bisticcio tra autore, però ci stava. Certo che magari prendendo i suoi giochi, quindi prendendo le sue storie e facendone pare dei film, probabilmente verrebbero delle cacate in mani, proprio perché il suo lavoro si sviluppa molto bene sui videogiochi. E sfrutta bene questo medium, però probabilmente, no, non lo so, io faccio questa domanda. Beh, anche perché un film di 6 ore penso che è difficilmente. Sì, però si possono fare 3 film di 2 ore, volendo, sì. No, forse sei un po' più indulgenti per le storie nei videogiochi ancora. Sì, quello è il problema, secondo me. È che è vero che ovviamente, vabbè, a parte quello che dice Kojima, che Luigi lo ha già ripetuto anche un altro episodio, e l'ho trovato interessante come esternazione da parte di Kojima, il fatto che lui dice che i videogiochi sono servizi, sono opere d'arte, qualsiasi cosa è servizio, anche un film è servizio, anche un quadro è servizio, se la vedi da quel punto di vista. Poi è chiaro che c'è chi mette più espressione, quindi arte, all'interno della propria opera, però sempre una direzione artistica c'è, sempre una creatività, certo, c'è, quindi comunque è vero che i videogiochi ancora non hanno raggiunto quel livello di maturità, che poi forse è modestia, la modestia giapponese, ah no, non è arte, è solo un servizio, potrebbe pure essere vista su questa cosa qui. Ma no, secondo me è un'espressione molto provocatoria che suona molto filosofica e la condivido, però in realtà secondo me è parzialmente vera, no? Questo è, cioè, bisognerebbe discutere mezz'ora solo di questa cosa qui e non potremmo, no? Cioè, nel senso, a meno che veramente non se ne fa proprio una puntata, e tanto Simone, facciamo l'appello affinché Kojima, che ascolta ovviamente questo podcast, e salutiamo, raccoglie il nostro invito a venire magari in trasmissione prossimamente e dire insomma la sua su se stesso, no? A rettificare tutto, a chiarire tutto quello che abbiamo detto finora. Tanto non capiremo nulla di quello che dice. Aiutate me, io sono stato rapito, esatto, da Konami, aiutate me, io voglio fare altre cose, non posso fare, magari invece cioè, non è cinese, è giapponese, però. Allora, voglio fare altre cose, aiutate, io ho rapito da Konami. Vabbè, allora Logan è rimasto Logan. Ciao zio, intanto saluto Kojima se ci ascolta, così almeno. Allora, io intanto, vedi, ad esempio non sono d'accordo su quello che ha detto Kojima sul fatto che il videogioco non sia arte, perché penso che potenzialmente qualsiasi cosa può essere arte, basta, esatto, che ti dà un'emozione. Quindi, però questo appunto, come hai detto te, non approfondiamo. Volevo fare un attimo il punto sulla questione demo 40 euro. È un discorso che si allaccia a quello che facevo prima su il quanto sei dentro al concetto Metal Gear, ed è anche una cosa che io posso fare il paragone su, ad esempio, dipende tanto da che valore tu dai alle cose. Faccio un esempio che non c'entra nulla: perché una persona si compra un iPhone a 800 euro quando può avere un telefono che fa le stesse cose a metà prezzo. Ti parlo da utente iPhone e Apple, perché è affezionato al brand, è affezionato al come Apple fa determinate cose, giusto? Metal Gear Solid Ground Zeroes a 40 euro a me non ha pesato pagarlo quella cifra, perché sapevo che ne avrei tratto un certo tipo di esperienza, e come Luigi sa benissimo, io da quando è uscito non ho smesso di giocarci, quindi per me non è durato un'ora o 40 minuti, è durato, fate voi il conto. Vabbè, però aspetta, non... sì, ok, comprendo il punto di vista, però è il punto di vista estremista di uno che, nel sì, senso, varca perché... quasi il livello del fanatismo, no? Nel senso, sì, no, okay. Perché sono consapevole che sto lasciando fuori l'utente medio che va e si compra un videogioco. Ma anche l'utente non proprio medio è comunque un pericoloso precedente, cioè, nel senso, dire, al di là del motivo per cui lo hanno fatto, ok, che possono essere motivi economici, motivi tecnici, quello che ti pare, anche semplicemente per beneficenza, certo. Però sono sempre quello che ti pare, è comunque un pericoloso precedente. Perché? Perché comunque loro sapevano che facendo questa operazione la gente lo avrebbe preso comunque, e questo è drammatico da un certo punto di vista, perché al di là del fanboismo, al di là di tutto quanto, noi abbiamo come pubblico, ed è questo forse il grande problema dei videogiochi, tendiamo ad essere accondiscendenti su una marea di cose, quando il pubblico cinematografico o teatrale in realtà non è così accondiscendente. Quindi è un problema anche di pubblico il motivo per cui l'industria e la qualità magari artistica delle opere non migliora o non raggiunge ancora determinati livelli. Cioè, abbiamo fatto una puntata su Mass Effect perché eravamo inorriditi del fatto che la gente si fosse incazzata perché nel finale non ci stavano le battaglie spaziali, quando in realtà abbiamo visto aberrazioni peggiori nel mondo dei videogiochi e nessuno ha detto niente. Cioè, hanno fatto uscire Assassin's Creed, che era una pre-alpha, l'hanno fatto uscire nel mercato che non ci potevi giocare perché cascavi nello scenario, e nessuno diceva niente. Però le battaglie dei Mass Effect ci hanno fatto le class action, hai capito? Perché era, cioè, vabbè, però non si può dire che c'è un problema, non si sia detto niente, perché ne hanno tirati giù di tutti i colori, è giusto, ma è giusto, è giusto, quanto, ma sono il primo a dire che è giusto, lo so benissimo, è giusto. Però il fan se ne frega in questo momento, cioè in questo modo ovviamente te lo mettono anche in quel posto. Io non sono felice di aver speso 40 euro perché sono consapevole che durava poco il gioco, ma essendo tanto appassionato io tutti i giorni mi mettevo lì e mi facevo la storia dall'inizio alla fine e mi divertivo, è quello che voglio dire. Vabbè, allora, passo per scemo, lo so. Tu metti da parte 50, io metto da parte 50, gli mandiamo una negretta a casa, sto ragazzo. un'ivoriana, e no, ci vuoi giocare quanto vuoi. No? Scherzo, chiaramente. Cioè, vai tranquillo, ma tanto visto la durata del gioco, anche se ci giocavo tutti i giorni, mezz'oretta avevo finito, quindi avevo il tempo di fare quello che volevo poi. Infatti. Io, bellissimo, okay. Perché poi ho cominciato il gioco, adesso faccio la photo gallery, mi preparo per il primo avvio. È finito. E ho detto, aspetta, beh, adesso so che ci sono, adesso continua, no? Perché ci sarà, continua su Phantom Pain. Io lì proprio bestemmie. Vabbè, e Marpo? Una cosa brutta. No, Marpo sta già detto. No, sta questione, ecco, ci siamo focalizzati adesso sulla demo dei 40 euro, a questo punto. No, secondo me la gente è disposta a comprare, io ritengo, questo sono molto liberale. Tu sei un liberale, quindi sì. Finché la gente compra va bene. Io ho una visione più socialista dell'universo, quindi purtroppo sbaglio. Sì, ma poi siamo sempre lì, nessuno ti punta il fucile alla tempia per comprare. Sono d'accordo, però secondo me questo dimostra comunque ancora una non focalizzata maturità del pubblico. Sì, tante cose su Metal Gear me le sono perse, soprattutto su Ground Zeroes, ma prima che uscisse, no? Cioè il momento in cui la persona tocca, ok, mo mi vado a prendere Ground Zeroes, ma lo sapeva quanto durava? Sì, Sì. Si sapeva. È per quello che dico. Se lo da quel punto di vista, massima trasparenza. Ti stanno dicendo: io ti vendo una demo di 10 minuti, dammi 40 euro. Sì, padrone. Che poi comunque non sono più neanche 40 euro, perché mi pare che dopo, no, a seguito delle polemiche, dopo qualche mese comunque me coglioni, allora, no, cioè, da qualche era mese era sceso comunque di prezzo, allora, prezzo sì, giusto a 38. Il prezzo giusto, no, sarebbe stato farlo uscire a 19 euro. Abbiamo visto degli accessi anticipati di merda uscire su Steam a stava 15 euro, cioè, meno di 14 euro, 13 e qualche cosa. Però sono anche convinto, cioè non sono cose da imputare a Kojima queste. Esatto. Non è certo lui che sceglie i prezzi dei suoi giochi, quindi. Però abbiamo detto il frontman e le bestemmie quanto, hanno lui, cioè, sì, quanto è inciso, certo, ci mette la faccia, quindi. Quanto è inciso il fatto che fosse Metal Gear di Hideo Kojima, se era il batter a pesca di no, non lo faceva Antonio Sorcia, 40 euro non può comprare nessuno. Scusami Marco, se il batter a pesca di una persona poco nota manco usciva. Nelle acque in cui navigava manco te lo pubblicava. Cioè, tu considera una cosa, che è vero che noi dobbiamo ridimensionare la figura di Hideo Kojima da questa figura divinizzante che gli è stata attribuita, però in realtà è proprio grazie a quella che è stata fatta sta operazione. Esatto. Quindi, cioè, qui si cade un po' in una contraddizione. In realtà, se non fosse così, è stato permesso perché è lui. Esatto. Cioè, capito qual è il discorso? Che lui non c'entri niente, che okay, sia stato usato passivamente. Passivamente, quello che te pare. Però, se non era Hideo Kojima e non era Metal Gear, poi grande opera, grande grafica, tutto in piano sequenza, un capolavoro da quel punto di vista. Cioè, tecnicamente qualcosa che io non ho mai visto. Cioè, quindi quando Peppe ha spacchettato la PlayStation 4 stavamo tutti a casa sua ma siamo sempre lì. Allora il discorso infatti il discorso che diceva Luigi è giustissimo, che comunque Kojima lavora per un'azienda che è Konami, quindi Konami cos'ha? Kojima come cartuccia la spara e la sfrutta per poter fare i soldi. Capito, però lui ha la personalità è comunque un personaggio che ha una personalità forte. Cioè, diciamo, come personaggio è forte all'interno del mondo dei videogiochi, può anche, secondo me, dire la sua. Non è che è così assolutamente passivo. Cioè, io non vedo Kojima schiavo della Konami. Cioè, ma magari per cosa, quello che ne sappiamo, è anche andato a lamentarsi dalla Konami e dire: ma che cazzo fate? Vendete il prologo a 40 euro? Il prezzo giusto, non è quello. Buttare via. Per quello che ne sappiamo, sono dietro le quinte che noi non possiamo conoscere. No, sono d'accordo. Luigi, tu sta demo dei 40 euro la giustifichi? Però dal punto di vista commerciale, col prezzo che è uscito e per il contenuto che presentava, no, ovviamente, perché a 40 euro secondo me si comincia a parlare di una cifra importante. Quindi, considerando i videogiochi come beni di lusso, non poteva in qualche modo essere giustificata dal contenuto quella che poi non capito perché è chiamata demo, ha una sua diciamo autorealità precisa, una sua carattere, personalità. La chiamiamo demo per rendere chiaramente paradossale, sì. Cioè per una tech demo. Una storia che però alla fine più che altro non riesco a capire, ovviamente ci fate caso, sfrutta fortemente il fatto di è uscito PlayStation 4, quindi questo è il gioco per PlayStation 4, anche se in qualche modo è multipiattaforma, è uscito anche su PS3, altre console, cioè ha sfruttato bene, ma infatti il discorso scusami, proprio a ribadire questo concetto, io ne sono l'esempio vivente, come aveva anche rivangato quell'esperienza Simone e Marco di quando eravamo assieme e mi ero comprato la PlayStation 4. Io mi sono comprato quando fu a marzo l'anno scorso la PlayStation 4 più per poter giocare a Ground Zero e vedere effettivamente com'era la potente spaccamascelle tecnicamente su PlayStation 4, piuttosto che so che c'era assieme in quel periodo, che me l'avevo preso pure assieme Infamous, per darti un'idea. cioè a me interessava le potenzialità dell'opera di un'opera di Kojima su un nuovo hardware, chiaro, piuttosto chiaro, che sicuramente che, non sarei stato che, l'unico esatto, sì. che altri titoli magari anche first party ed esclusive, però piuttosto mi interessava vedere quello, le potenzialità in atto, sì. No? Io una cosa non riesco a capire del vostro discorso in particolare, è come se sai un po' prendere Hideo Kojima come figura alla quale la risonanza che ha un'opera di cui il suo nome è ammantata fosse un motivo quasi di sorta di astio nei suoi confronti, perché ovviamente lui poteva dire o fare qualcosa, in qualche modo è stato condiscendente o meno. Cioè, a parte adesso, vabbè, il discorso dietro le quinte che noi non possiamo sapere, se non, ed è appurato mi sembra da tutti, il fatto che qua si parla di capitali, si parla di tanti soldi e società azionarie che ci sono attorno, che noi non abbiamo idea di cosa muove alla fine in realtà una pubblicazione così anticipata di un prodotto monco. Ma quello che voglio dire è una personalità così potente come quella di Hideo Kojima, che ha assunto nell'immaginario di chi conosce Mastica Videogiochi questa risonanza aurica, quasi santa, no? È chiaro che in qualche modo si trova poi all'interno di alcuni giochi che non può controllare. Cioè, non dobbiamo avere l'idea di qualcuno che in qualche modo io penso che Kojima sia rimasto in qualche modo colpito e non gli è andato molto giù, prima di tutto di dover dare un'opera sua che sia di raccordo, fa da raccordo a quello che verrà, si spera, quest'anno, ma comunque non è nelle sue corde lasciare il discorso così a metà, che poi per tanto tempo. Poi secondo me lui avrebbe voluto benissimo mettere Ground Zero all'inizio di Phantom Pain, quindi farci giocare degli aspetti fra il raccordo e quello poi della trama principale, che in qualche modo ci faceva entrare all'interno dell'opera dopo Peace Walker. È stato costretto invece a fare questo lavoro di riammanicamento, tutta la Kojima Production con le cassette, risentire, cercare di si vede che è una cosa che non è nelle corde di Kojima. Kojima non è sbrigativo quando fa le cose, lui è prolisso, lui è, invece Ground Zero vola così velocemente, sia dal prologo come ci introduce, sia come poi si congeda. Ecco, io non la vedo, se dovessi analizzarla, una realtà che Kojima ha voluto, su cui ha probabilmente noi abbiamo l'idea di fare soldi, un po' del capitale che ci ha, in qualche modo, parliamo di cifre talmente alte che in qualche modo ci influenza anche il giudizio soggettivo, ma secondo me non lavorano così a quel livello. Cioè, si parlano il capitale, parlano di entrate, di investimenti, ma Kojima è già arrivato a un punto, secondo me, della sua vita, del rapporto con se stesso, che gliene frega, se ne frega di avere altri soldi. Cioè, fondamentalmente, cioè, lui è sistemato come diciamo professionista, come artista anche. Ecco, più che altro è saggiare la sua idea artistica per portarla ad un livello superiore che possa in qualche modo rappresentare di nuovo una sfida per se stesso. Così magari potrei vedere l'Hideo Kojima che immaginiamo noi come figura individuale, con quest'aura che crea e che spinge avanti l'avanguardia del videogioco, ma non sicuramente come una persona di finanziariamente attaccata al soldo che vuole fare, o anche le sue twittate. Secondo me si sta ammazzando assieme ai suoi colleghi per rispettare la uscita di Phantom Pain quando sarà annunciata. Cioè, stanno lavorando in un modo, secondo me, pesantissimo là dentro, ragazzi, da spaccarsi il culo. Quindi quando ci dà un'immagine o ci dice ecco qui cosa sta facendo, ecco Kojima dentro l'orecchio del, ecco Big Boss dentro l'orecchio del cane, adesso non mi ricordo, una cosa simile c'era dentro l'orecchio. Sì, era un'immagine, hanno codificato che c'era l'immagine Big Boss nell'orecchio di un cane, di uno screenshot, per dirti, no? Quelli sono comunque veramente persone che... L'avete visto il tweet in cui dice che stava disperato? L'avete letto il tweet che stava disperato di fronte a Phantom Pain? Perché praticamente stava in crunch mode, stanno trinciati lì. Non so se ha detto una... Non so se ha lanciato una preghiera oppure ha detto teniamo duro e altro. Sì, cioè, era quello anche... che dicevo prima. Aiuto, io rapito, voglio scappare, sì, le guida, sì. Donami. No, ma secondo mi me do 40 euro, portatemi via. Non abbiamo parlato anche della Kojima Station che c'è ogni settimana. Ecco, dover andare lì ogni volta e presentare il suo prodotto in qualche modo, o comunque chi per lui lo vuole. Sono tutte realtà di presenza in cui uno deve spendere il proprio tempo vita a promuovere qualcosa che fa parte del suo lavoro, ed è un qualcosa di extra, perché magari lui piacerebbe starsene a casa, starsene coi figli, starsene con la famiglia, oppure andarsene in vacanza. Invece è un continuo, poi voi non immaginate, ragazzi, il Giappone è l'eccellenza, ok, del videogioco, molte volte si arriva a dei livelli molto alti, ma sapete la dedizione che hanno per il lavoro? Cioè, noi non lo immaginiamo nemmeno, io ho letto dei libri sui rapporti sociali che c'è il Giappone, su come anche ti devi piegare a seconda dell'inclinazione, hai un certo rispetto per il tuo boss, le cose che puoi dire e che non puoi dire. Sono malati per certi versi, hanno delle convenzioni. Sì. Io penso diciamo che... malati, è una cultura assolutamente diversa dalla nostra, che proprio per questo è difficile anche da giudicare. No? Nel esatto, senso, esatto. Noi tante volte, ecco, guardi il sistema scolastico giapponese, pensi al tipo di punizioni che danno, e per noi sono cose inconcepibili, dici, ecco, questi fanno delle cose assurde. In realtà sono assurde. Chiaramente sono assurde secondo i nostri canoni, probabilmente secondo principi diciamo universali anche possono essere assurde, ma in realtà non vanno, cioè è difficile proprio esprimere un parere su una cultura che è veramente lontana da noi, ma proprio lontana per certi versi anni luce, perché poi c'è questa doppia faccia, no? Il rivestimento occidentale molto sbrilluccicante, molto tecnologico, e una visione dell'universo e del mondo che è completamente diversa da una parte il McDonald's, dall'altra il tanto che esatto. Tagliarsi il mignolo quando sbagliano, esatto, cioè, tagliarsi il mignolo magari no, però il modo cioè, c'è gente che dice che il discorso del modulo per scusarsi di aver commesso certe determinate cose, e sì, c'è cioè, anche una burocratizzazione della loro cultura, della penitenza, dell'errore, capisci? C'è tutta una serie di cose che purtroppo noi non, tante volte non ci immaginiamo, e che mi affascina tantissimo, tanto quanto mi fa comunque oggettivamente sentire quanto sono lontano da quella cultura. Quindi c'ho questa poi ambivalenza un po' nel rapporto che c'è con i giapponesi, e la stessa cosa che provo nei confronti di Kojima, poi, perché se io lo vedo, vedo una parte del brutto dell'essere giapponesi, e dall'altra la grande capacità di creare invece magari opere che sì, in qualche maniera travalicano i confini dell'essere giapponese. Quindi questo è il mio rapporto con lui, quindi con lui, cioè con sì me. Ma si fa tipo in realtà un po' sospendere il giudizio, anche se siamo in aperta democrazia, però io quello che dico è noi guardiamo col filtro occidentale i nostri esatto, occhi, una realtà che invece secondo me non ha quel tipo di corrispondenza che conosciamo noi, e quindi questo si ripercuote anche e soprattutto forse dove i giapponesi vanno in qualche modo a realizzare molto, molte volte loro stessi, che è la realtà professionale. Quindi io vedo Kojima come un grande professionista e anche un frontman, uomo di facciata, però non lo vedo come la persona che muove le pedine e dice bisogna guadagnare di più, quindi facciamo questa azione di marketing, o bisogna cambiare le persone, quindi licenziamo questi e prendiamo altri. Cioè vedo veramente il team è rimasto sempre quello, da che io sappia, è cresciuto col tempo e si basa su dei capisaldi che sono quelli, perché lui ha voluto questa Kojima Production, ha voluto avere questo nome, e secondo me anche Konami ha voluto in qualche modo questa sorta di indipendenza tra virgolette, perché portava, era un marchio che potevi mettere dappertutto stampato sui i vari Metal Gear e le sue produzioni. Quindi insomma, vi ripeto, io sospendere il giudizio sull'astio provato da Kojima, che si diverte in maniera sagace, qualche volta anche cinica nei confronti del mondo esterno. Sì, mi sono reso conto che aver aspettato 3 stagioni per parlare di Kojima in realtà erano giustificate, anche perché probabilmente anche oggi, andando a concludere un episodio, in realtà mi rendo conto io che è un tema che è veramente un po' complicato, cioè molto più complicato da sviscerare E come sempre, Marco, ce ne andiamo a con casa altre domande. Senza aver detto con niente. Poi il buon sostare. No, aver detto tanto, ma senza aver concluso. Cioè, nel senso, se concludessimo oggi, non potremmo fare uno speciale. Il prossimo anno, mese, quando esce il prossimo, quando esce chiaramente il gioco, quando esce il prossimo Metal Gear, questa già sarebbe fare una puntata solo sulla domanda, esatto. Bene, allora facciamo un giro così, opinione finale sulla puntata, su Kojima e su Metal Gear, Marpo, Giuseppe, Logan, Luigi e poi Marco. Allora, cominciando da me, niente, aspettiamo tutti con grande piacere il nuovo Metal Gear. Personalmente aspetto con piacere il nuovo Silent Hill, con grande curiosità. Quando uscirà il nuovo Silent Hill? La demo del Silent Hill è gratis, e questo pure vorrà dire qualcosa, che poi è tutto un corridoio, ma lasciamo stare. Ma che poi, scusa, PT alla fine l'avete capito perché cosa stava, no? Porca troia, no. playable teaser giocabile. È un teaser di Silent Hill, quindi è un teaser giocabile. Sì, anche perché in realtà, cioè, nel senso, potrebbe essere qualsiasi cosa, cioè design Hill, sì, cioè, sì, diciamo che ecco, no, cioè, è Silent Hill, perché poi alla fine c'hai quella musichetta troppo famosa prima che ti spunta proprio la scritta Silent Hill. Comunque. È un autore che ancora stupisce, ancora crea attesa, quindi è un autore vero, siamo qui. Sì, anche se poi ecco, il fatto che lavori su due progetti contemporaneamente mi fa venire i brividazzi. Deve ancora cominciare, secondo me hanno giusto iniziato a fare Benicio del Toro di Silent Hill, dici? Sì, se è ancora sotto, cioè, tu fai un teaser giocabile e non c'hai... No, vabbè, se hanno fatto il teaser, hanno messo giù le basi del gioco, però ora hanno detto mettiamo in stand by, mi dedico a Metal Gear e poi si comincia, secondo me, poi. E lì c'è Guillermo, tanto io faccio, tu fai. Ma anche perché, cioè, io fra un anno mi sono scordato di sto gioco. E uscirà un altro PT. Ah, beh, ma Phantom Pain quando l'hanno annunciato? Nel 2012, se non sbaglio. Marco, già passati 3 anni, hai rischiato di sporcarti di sangue. No, non ti sei sporcato. Ti pizzi sangue. Mi sto sanguinando io in questo momento. No? Da quale orifizio? No, dal braccio. Braccio, tranquillo. Vabbè, io ne volevo solamente ribadire nuovamente, facendo almeno la somma, senza sembrare di parte, comunque, che secondo me comunque Kojima almeno rimane nel panorama attuale comunque uno dei pochi autori comunque moderni che sono in grado comunque di divertirci senza però, diciamo, rinunciare comunque alla sua visione personale della vita, no? Quindi in grado, voglio dire, di offrire le esperienze ludiche che ovviamente sono, come abbiamo già ribadito, non si prestano a una fruizione che sia distratta e superficiale come molti altri giochi, proprio perché appunto giocare, secondo anche Kojima, non basta più, occorre prima di tutto capire, secondo me, il messaggio. E soprattutto chiuderei con la speranza appunto per il futuro, per il prossimo gioco, che ricordatevi queste parole in rima: e rimpiangerai la vita di prima ad ogni nuovo gioco del divin Kojima. Meco. Logan? Spero che la frase che hai detto, vabbè. Allora, niente, sì, speriamo che esca presto, che annunci presto la data, quantomeno. Comunque un episodio che sembra abbia snellito di molto, almeno da quello che si è visto, la parte narrativa, diciamo, quantomeno. Sì, no, quindi... vabbè, ma perché non c'avevo il tempo. Può darsi che... Il gioco vedrai come... cazzina valanga proprio. Vedremo poi il gioco completo. Poi il consiglio, comunque, io invece di parte lo sono, lo sapete, è dichiarato. Quindi il consiglio è: se volete approcciarvi alla saga di Metal Gear, fatelo dai primi capitoli, o quantomeno dal primo Solid, perché sennò non ci capirete niente e lo odierete. Ma secondo me non ci vedrete niente lo stesso, è molto probabile. Ok, Simo, posso fare un attimo pubblicità a Cerebro? Quello facciamo quando chiudiamo. Adesso finisci il tuo pensiero e poi. Ok, va bene. Allora, il suo pensiero era pubblicità. No, perché si lega a Metal Gear. Allora fai come vai. No, vabbè, se no faccio dopo. Vabbè, lo fai due volte. Vai. No, niente. Che in questa puntata qua, che reputo bellissima, mi sono anche divertito un casino, ve lo dico. Abbiamo parlato di Kojima, personaggio più che altro, e persona. Invece lo dico a chi ci ascolta: se volete andare a cercare un nostro vecchio episodio di Cerebro, a cui ha partecipato anche il buon Luigi, abbiamo invece analizzato proprio i giochi della serie cronologicamente e abbiamo avuto anche un ospite che è Giacomo Talamini, che forse è il più grande fan di Metal Gear italiano, quando ancora era in cantiere la seconda parte di Metal Gear Solid Philanthropy, che poi purtroppo si è saputa è stata cancellata a causa forza maggiore. Quindi il consiglio è, se volete, andarvi a ascoltare la puntata. Tutto qua. Benissimo, mi pare anche giusto. Luigi, aggiungo. Grande Luigi, bravo, bravo. E anche Luigi sbaglia, questo almeno ci consola tutti. Sì, forse il primo a sbagliare mi metto in lista. E aggiungo a quello che ha detto Logan il fatto che il progetto Metal Gear Solid Philanthropy parte seconda il veto non è stato posto da Kojima, che anzi aveva chiesto a gran voce quando sarebbe uscito il secondo episodio direttamente a Talamini e alla produzione, ma è stato Konami a bloccare questa cosa, a riprova di quello che ho detto prima. Prima cosa. Seconda, non vedo l'ora che esca Ground Zero, per un motivo molto semplice: spero che ci sia molte zone all'aperto, tanta foresta e quindi in qualche modo tanti richiami a quelle suggestioni che ho provato con Metal Gear Solid 3 Snake Eater, che come ha detto Logan anche per me è uno dei capitoli preferiti della saga di Metal Gear. E infine dico, spero che Kojima in futuro, oltre alla saga Metal Gear, che non ho idea ovviamente di come possa svilupparsi, faccia qualcosa con le nuove tecnologie, soprattutto con la realtà virtuale. Immagino che la Kojima Production sia stata ben fornita già di headset, di visori di realtà virtuale, come il Project Morpheus prototipo che abbiamo conosciuto, che abbiamo visto, insomma, un po' dappertutto. Sarà distribuito, si spera, entro l'anno, in qualche modo, con degli applicativi, videogiochi e qualcosa che possa in qualche modo portare diversamente oltre l'approccio col videogioco, e che lui ne possa in qualche modo sfruttare secondo le sue capacità tutte le caratteristiche e fare qualcosa che possa sorprendere, perché lo reputo un grande ideatore, un grande artista, ma anche un grande, diciamo, inventore di nuove possibilità che secondo me vanno a sposare bene la nuova tecnologia proposta da Sony in questo caso, ma in genere della realtà virtuale. Ok, Marco? Io spero che il prossimo Metal Gear sia un po' meno ingarbugliato, perché tutto sommato, volendo, può dire le cose che dice anche con un po' meno di scie chimiche e via dicendo, insomma. E complottismi. Vabbè, sì. Ma gli levi la sua natura, però. Ho detto, ma anche invece di mettercene 100 di complottismi ce ne mette uno. Comunque, in ogni caso, spero anche che questa doppia natura che ha Kojima si diciamo, trasformi un po' di più, perché Kojima fa questi giochi molto occidentali come storie, come personaggi, che però sono intrisi di una diciamo, cultura giapponese proprio nel profondo, per cui vedi questi personaggi molto occidentali che si comportano e hanno situazioni molto orientali, molto giapponesi, che non è che mi piace tantissimo, francamente, però poi sono gusti, insomma. Cosa mi aspetterò, cosa mi aspetto poi come gameplay, penso che l'abbiamo visto parecchio in Ground Zero, parecchio, abbiamo visto in Ground Zero le potenzialità del Fox Engine, abbiamo visto le potenzialità comunque del gioco stesso. Sono fiducioso, però nello stesso tempo c'ho anche paura che possa essere come trama un po' troppo pesante. Spero di no, insomma, poi vediamo un po'. Per quanto riguarda poi la figura di Kojima, lui comunque è il frontman, è anche giusto che lui ci mette la faccia e si prenda anche le bestemmie, cioè penso l'abbia messo anche in conto, insomma, la cosa. Quindi ci rivediamo fra... Qui lascio il vuoto perché così poi quando uscirà ci ce lo mettiamo. La voce della ci vediamo il 7 marzo. 7 marzo 1929. Va bene. Allora, come abbiamo detto, insomma, abbiamo cercato di esprimere le nostre considerazioni. Il tema era grosso, il personaggio era grosso. Parlare del gioco caposaldo, ovviamente, di Hideo Kojima è fuori dalle grazie di dietrologia videoludica, anche perché volevamo fare un discorso, insomma, un po' più a largo spettro. Anzi, l'idea originale era quella di fare una sorta di processo, nel senso pro, contro e neutri, e cercare di gestirla anche dal punto di vista sceneggiaturale, diciamo così, insomma, in quella maniera lì. Chiaramente non è stato possibile per diverse ragioni, sarebbe stato anche complicato. Poi io mi scuso anche molto con gli ascoltatori che in questo periodo ci sono e non ci sono, quindi questo un po' risente anche nelle uscite, ovviamente, dei nostri podcast, a parte ovviamente Dietrologia Videoludica, che esce una volta ogni due settimane, e a parte una volta, insomma, che si sono quasi accavallate, però insomma è un periodo un po' particolare. Detto questo, penso comunque che ancora una volta abbiamo dato il meglio di quello che potevamo. Speriamo che abbiate gradito, ovviamente, questo osservatorio e tutte le cose che abbiamo detto all'interno. Quindi andiamo a salutare, partiamo da Marpo, che oltre a essere ovviamente un nuovo ingresso in Italian Podcast Network, quindi in Dietrologia Videoludica, lo ascoltiamo anche ogni tanto quando esce, se capita, su Retrocast, e lo trovate ovviamente su retrocast.it. Ciao Marpo. Ciao ragazzi, saluti a tutti, mi trovate anche su Facebook come Marco la Notte che bruciamo croma. Che bruciamo croma, esatto. Un nome più semplice, no? No, è che lui c'aveva la croma e hanno bruciato. Sì, voglio vedere. La croma, però gli hanno bruciato. Okay. Poi salutiamo anche Luigi Marrone, che ovviamente trovate spesso e volentieri su Dietrologia Videoludica, ma lo trovate ancora più spesso e volentieri sulle pagine di PlayStation Magazine. Ciao Luigi. Ciao a tutti. Ciao. E poi vabbè, lo apri il blog quello com'era, Electronic Self, tanto quello, insomma. Cioè, sì, ho un blog, ma diciamo che poco. E la mia attività è spostata su PlayStation Magazine, quindi sono 4 anni probabilmente che non scrivo un articolo lì. Perfetto. Sì. E lo trovate anche su PlayStation Magazine, sempre attuale, anche sempre attuale. Certo, sempre attuale. Beh, quello scrive Luigi c'ha un valore universale, esatto. Lo sai, insomma, che trascende lo spazio e il tempo. E il tempo, bravo, esatto. Comunque lo trovate anche lui su PlayStation Magazine, se non dico una stupidaggine, ma soprattutto lo trovate su Cerebro Podcast, che anche questo è diventato parte della famiglia Italian Podcast Network, quindi oltre che sul feed che metteremo nelle note dell'episodio per abbonarvi al podcast in sé, lo trovate anche su www.italianpodcastnetwork.it e ovviamente nello stream del feed generale di Italian Podcast Network. Quindi insomma, questo ci fa piacere. Ciao Logan. Ciao ragazzi, grazie di tutto, bella puntata davvero. Sì, bella per te pure. Bella per tutti, dai. Bella per tutti. E poi c'è oramai il nostro mastro di chiavi, Giuseppe Saso, che anche lui ha tutti i suoi fanta riferimenti. Vabbè, non solamente quello dell'altro podcast che fa parte di IPN, che è L'Occhio del Beholder, il podcast sui videogiochi di ruolo. Esatto, che è uscito con una bella puntata. Che poi vi ascolterete, insomma, è un ospite specialissimo, è un ospite speciale, insomma, esatto. E poi c'è Marco Gualdi, però perché mi dovreste seguire? Perché lo dovete seguire? Che sta producendo, continua a produrre le sue fantastiche photo gallery Sì. Sì. Ah, sì, è vero, sì, di tanto in tanto. Su dietrologiavideoludica.it ricordiamo il nostro sito dove continuano a uscire foto gallery. Gli articoli continuano ad uscire, anche se ultimamente un po' di meno. Finisco poi dopo tu. E continuate a seguirlo il sito, soprattutto perché ho visto che continuate a commentare le puntate, e poi ci aggiorneremo in una puntata, cercheremo di leggerle anche le vostre, i vostri commenti, e questo ci fa veramente molto piacere, perché significa che questa terza stagione ha dato un po' il via, diciamo, a una nuova era per questo programma, che quindi potremmo anche chiudere qui la trasmissione così. Infatti chiudiamolo, secondo me chiudiamo DVL adesso che è il momento del suo massimo splendore. Andarsene quando la luce è al massimo. Bravo, esatto. Volevi dire? Dicevo che visto che è uscito anche l'articolo che, come dicevo prima, era il primo avvio di Metal Gear Ground Zeroes, che poi in realtà è diventato anche la fotogallery. Settimane fa questo è uscito. Settimane fa, non troppo, non troppe settimane. Settimane fa ho detto. Non troppe settimane. E ti dico che è uscito settimane fa. Che quattro cazzo. Settimane? Tre? Due? Tre settimane sicure. No, ma no, dai. E comunque ringrazio Logan che si è prostrato nel fare proprio, ma con, diciamo, con una pochissima voglia, era proprio anche disgustato dover rigiocare di nuovo Metal Gear Ground Zeroes e fare 200.000 screenshot. Ah, cioè lui l'ha fatta la galleria? Lui l'ha fatta la parte finale, sì, perché cioè ovviamente il 90%, perché io lo sapevo che vi coordinate fra di noi. Allora Logan è un po' anche di dietrologia videoludica pure lui? Sì, che non bello. Lo so, dipende, perché dipende se, che siamo cosa un dice canker, allora. Che cosa dice Cerebro, perché lui è frontman e quindi in questo caso se Cerebro dice no e torna indietro. Va bene ragazzi, alla prossima, ciao a tutti, ciao. Ciao amici! Welcome to Geronto Gamer. Okay, Colonel, I'm ready. Thanks to all the Colonel, I have new equipment. I wanna try soon. Ma perché tu stini a giocare ai giochi dei Metal Gear? Così, un po' per masochismo. Ma perché mi voglio fare due risate con i personaggi che morono e risorgono a cazzarella? Ma infatti basta! Io già m'ero perso con Metal Gear Solid quando Snake entra a base del Shadow Moses. Ma era inizio! Appunto! A me, Kojima, non mi è mai piaciuto, ripetitivo, troppo sopra le righe, boh! Non l'ho mai sopportato! Roger Cardinal. Alma base range. I see four snipers, one over the watchtower east, and the other ones over the bridge. Eh sì, ma infatti c'hai ragione. È sempre stato sopravvalutato, dai. E uno che alla fine ha fatto tre cose e una ha pure riproposta fino allo sfinimento. Ma sì, sto cacchio di Metal Gear alla fine aveva rotto già al secondo capitolo per PS2. Ti fa proprio venire la noia. E poi queste trame intricate alla giapponese, che palle. Ma a proposito, sto gioco nuovo chi l'ha fatto? Kojima. Ma non era rimasto solo un braccio di Kojima? Eh sì, ma te l'ho già detto, no? Se l'è fatta attaccare addosso a un altro e adesso convivono nello stesso corpo. È così che ha potuto scrivere sto capitolo nuovo di Metal Gear. Tutto chiaro, no? E come no? Yes, Kono. It's time to use my new Fargun. Oh, hai sentito? Ho capito bene. Zitto, zitto, fammi sentire. Hey, you! Genio! Assoluto! Capolavoro! Lo dicevo io che era una in gamba! In braccio, ma! In braccio! When you're